conversazioni, sto qua. Stiamo piano, calma. Non abbiamo fretta. sì. Cosa? Tutto bene, per loro? Vediamo, tutto bene, tutto in ordine. Sì? Grazie. E però fai un controllo? No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Radio 5, segnale 5. Positivo. Fatto qualche cambiamento? No, sto usando il Mobicom, capito? Ma positivo, no, no, comunque va bene, va. È positivo, vai. Tutto Roger, tutto Roger. Chi c'è, qualche volta? Ma guarda, c'era Pierpaolo, c'era Gianni, ma Gianni proprio russa deve essere facendo qualche lavoretto, ha chiuso, poi c'era anche Pierpaolo, ma non si è sentito più nessuno. Vabbè, magari sono andato a farci il pisolino. No, no, a tabaccare Gianni, dice che stava tabaccando. E gli è andato a lavoro? No, oh, un lavoretto dice che stava doveva fare, boh. Positivo, positivo. Ascolta, ma quella radio lì c'è anche le 45, sì, tutti i canali. Oh, questa c'ha le bande, c'ha e basta. FM, tutte le bande, là. La banda laterale e basta, là, non c'ha il canale lì sopra. Oh, no, negativo. E non ti provo a usare l'altro? Sì, sì, ma era giusto per provarlo questo, va bene. Quello se c'hai due antenne, qualche tipo aveva lasciato attaccato un'altra antenna, capito? Ogni tanto lo accendi per farlo scaldare. E KK è quello che sto facendo. No, adesso rimetto l'Alan 87, dai. Positivo, là. Ma la 2001 non è montata su? No, negativo ancora. Vedo un po' se ce la faccio per domani. Ma stai facendo? Stai mettendo il palo nuovo o che cosa? No, oh, il palo è nuovo, capito? Devo solo montarla su e basta. E cosa più? Io lo so, ci vuole poco, ma verrò per le scatole e stupare anche la gente, capito? Mi devo entrare dentro l'appartamento. Ah, perché non c'è altro posto per salire? Oh, negativo. Ho capito, va bene allora. Non più mettere le scatole. Lo so, lo so. Infatti, appena c'ho un attimo di tempo, piglio la scala, salgo, piazzo l'antenna e poi scendo, capito? Perché la 2001 è migliore di quella Storm, eh? O di quella Sirio, quella cosa c'è, quella Maglio Ruccio, là. È superiore, capito? Intanto è già una 5 ottavi, ricezione migliore, trasmissione migliore, capito? Magari, lo so, lo so. Vabbè, però comunque, nel frattempo, pure con Maglio Ruccio ti fa sentire un po' la tua parte, va bene. Sì, quello sì, è la sveglia, quello è vero, per essere un bastone già riesce abbastanza bene, dai. Io ci avrei messo, capisci a me, una cosa, un aiutino. Lo so, lo so. E non sarei neanche salito a mettere niente, avrei lasciato quella, avresti messo un aiutino. Gava, gava. Tanto quello 87 quanti watt era? 5 watt? Penso di sì. Magari ne darà qualcosina in più. Penso su 10 watt pure. Una decina di watt, così è. Con 10 watt mettendo quel 747, quelli di avete a 100 watt, dovrebbe andare intorno agli 80-85 watt. Cava gava. E beh, meglio la sentirti, so. Ah, beh, quello sì. Secondo tu adesso, se avreste avuto quella GGO attaccato, qua sta arrivando Santiago 5, minimo mi arrivavi 7-8 come segnale. Eh sì. E la radio anche più forte. Cava cava. E tutti i rabbinari, uno di quelli lì con un microfono a tavolo, fai che, esce di lusso. E infatti. E va alla grande. Lo credo bene. Com'è nel rapporto di segnale da te? Passaggio. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qua mi dà 8 picchi di 9, dai, è radio 5. 8 picchi di 9 addirittura. E invece nell'altro ti dà segnale di 3, così è. Nell'altro mi dà segnale di 5. 5. Fai conto, questi 4 watt modulati, eh. APK. Senza nessun aiuto né niente. Un apparatino con l'MP più 5, senza aiuto, senza niente, 4 watt modulati. No, 4, è incomprensibile. 4, è esagerato. Non ti capisco. E adesso, quello fa? Migliorando qualcosina, fai che vedi tu un po' che sei più vicino, io qua non lo capisco cosa stai dicendo. E senti, sei saturo, Pupo, cosa hai fatto? Scusa, cosa avevo fatto fatto? Niente. Adesso sei passato, guarda me, da segnale 5 a Santiago 1, e la radio è un po' più comprensibile. Ti ho diminuito la potenza, abbiamo andato parecchio. Ma questo non è il tuo segnale, però. Lo so, se ti devo fare la sì. Oh, yeah. Certo, mi arrivi Santiago 7 qua, sì, 7. La radio è perfetta, adesso la radio non è perfettissima, è segnale di 2. Ehi, cazzo, aspetta un attimo. Allora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Dopo che era fatto questo qua. Ora. Un attimino. Così. Di vino. e termina a Chioca. Ma adesso ma si deve sentire bene, giusto? Mi sono colgata, sì. No, molto bene, come radio non è molto bella, Vabbè, io ti devo dire una cosa, così come sei adesso, per me, da come ti sto ascoltando io, vai perfetto. Va bene, ok, ti ringrazio, bianco un attimino, ti rientro tra poco. E da un apparato all'altro cambia anche la modulazione, cambia anche l'ascolto e la modulazione, non è che io adesso sto uscendo, non c'ho vero l'apparato professionale, ma c'ho LinkedIn, capito? E così che esce, sì, bella la radio, ma quell'altro che c'ho, la radio è molto più bella. Va bene, fammi controllo Mario. Tutto benissimo. Io lo stesso sto usando un Intel con l'MB più 5, com'è? No, già è buona, non ci possiamo lamentare. Vabbè, io apparati professionali non ne ho, però mi dicono tutti che questa è una bella radio, va bene. No, apparati professionali, quindi di quelli che sono, che sono professionisti, che hanno tutta un'altra frequenza, un apparato che non è nemmeno costruito in Italia, capito? Me l'ha portato mio nipote che si incontrava in Grecia. Ah no, ha visto, sapevo che facevo questo chiacchierate qui con questi giocattoli e me l'ha portato nuovo, bello, che è un bonbon, però è sempre sulla 27. Ah, non va oltre, quindi no. Non è italiano, capito? È un HMG. Comunque io ti devo dire una cosa, stai uscendo perfetto, la modulazione bella, chiarissima, radio perfetta del mondo. E ti dico una cosa, che quando esco con questo Inkete, con questo microfono manuale, TG è molto bella la radio, è molto bella, con quello proprio della casa insieme con l'Inkete è tutta diversa la modulazione, ma con questo CTE esce molto bene. Confermo, la radio è perfetta, segnale, vabbè, non se ne parla, tutto voce. Avanti, Facchetto per il Mario. E K Mario, io sono sempre piccolino Mario, come sto uscendo con le coordinate, cambio. Guarda Mario, va abbastanza bene, però lo sai perché? E tutti gli amici come la penso io, quando una persona esce male sono il primo che mi butta a capofitto, avverto subito, se non dico nulla vuol dire che la cosa va molto bene, ma arrivo a Santiago 8, 8 e mezzo, capito, e una radio più di 5 non ti posso dare, altrimenti se ne ridono gli altri. Ma ti ringrazio Mario, io ti contraccambio anche il tuo passaggio, sei bello pulito, chiaro, e confermo quello che ha detto Budonzer, sei bello forte e chiaro. Beh, cosa vuoi, sono apparati, bisogna tenerli bene, no, avere un cacciavite, aprirlo, a cercare l'uomo dentro come fanno tantissime persone che hanno questi apparati che stanno cominciando a forrogiare. Io Bordeaux c'ho apparati almeno più di 30 anni e tutti mi funzionano bene. Cappa Mario, cappa di Rogero, riprendi Bordeaux. Già lei Mario, sì, confermo, io c'ho un Louis americano che ha oltre 35 anni e ti dico che sono una canonata. Io mi davanti a me c'ho, dove c'ho tutti gli apparati e tutto cosa, no? C'ho un Somerca, c'ha soltanto 23 canali, di cui i baracchini sono tutti quarzati, ogni canale c'è il suo quarzo. C'ha il coso, c'ha 23 canali e 24 alfa, l'orologio incorporato è a mobile, questo è a doppio di quelli come Linkete, proprio bello bellissimo. Dopo ciò il coso ciò il console primo, quello lì c'ha 23 canali, stesso quartato, orologio incorporato, se ne mettono la sveglia, mi suona anche la sveglia, capito, vai in SSB o SSB? Già li conosco, io questi vecchiotti che ho io, diciamo che sono questo Ruris che è americano, quello che ha tre strumenti, che è tutto in legno, sicuramente l'avrei visto, comunque è base, ha una stazione base. Poi abbiamo, va bene, questo Apache 765, veicolare però, Mario, capito, è grande come, ti posso dire, come un tornado, più o meno questa grandezza qua, un presidente Unidem, poi c'è una 48, una 68, ce ne sono di vari tipi, no? Bene, io adesso sto domandando con l'FM 500S, immagina, quello lì c'ha 40 canali, ma dalla casa direttamente arrivava vicino a 36 e si bloccava. Ah no, e non funzionava più, non funzionava, e arrivava al 40, il 40 era a posto normale. Avevo, l'ho dato a persone competenti e quei quattro canali, gli ultimi quattro canali, me l'hanno messo a posto ed è una canonata. Però io parlo di tantissimi anni fa, eh? Mario, anche questo qua che stiamo durando io, questo arriva a 34 canali, capito? Me ne segna 40, però i 6 canali che mi segnano non sono funzionabili, perché però bisogna cambiare commutatore che è qua, capito? Però c'ho anche, in questo c'ho anche le bande laterali, FM, canali sopra, canali sotto, un po' completo, diciamo, là. C'ha di suo, c'ha intorno ai 20 watt modulati, ma io l'ho portato a 5 watt perché questo è omologato. È logica, bisogna uscire così. Ah, guarda, a me non me ne è mai venuto l'idea di prendere il mio lineare, di prendermi qui, di prendermi là. Sono riuscito sempre sinceramente chiaro, bene, è tutto capito. Anche qui arrivava fino a 34 canali, l'ho dato a modificare, quando voglio modulare quei 4 canali, ah no, e oltre salgo una levetta e me ne vado sulle bande di su. Avanti Pascherino. Positivo. Beh, in effetti ti confermo quello che dice Mario, perché penso che l'apparato più normale è più duro anche nel tempo, se mi ne confermo, ecco. Beh, è logico, quando la cosa è trattata bene, se c'è qualche cosa di grave, ripeto, hanno ognuno la tesua di zigito, ognuno la tesuia, e così che hanno, è tutto. C'ho un coso, un Mila, l'ultima volta sarà un 7-8 anni fa, l'ho dato Antonella Pomponio, l'ho dato, ricordo cosa ci aveva, ah no, e questo qui ce l'ho da quando ero in servizio lavorando, immaginate, almeno ce l'ho più di 20 anni, e da allora, da quando l'ha aperto Pomponio, non mi ricordo cosa ci aveva, mi si spendevano le luci dei canali, ha fatto quello che bisogna fare, non è stato mai aperto, sempre funziona che è una canonata, e come radio è meglio di questa qua. Perché lì lanciano un bel modulatore, capito, Don Mario? Se vanno a prendere, guarda, ti dico la verità, perché per casa non vanno bene, perché prendi i colpi, prendi il blatter e tutto. Però come modulatore è una radio ottima. Sì, questo è logico. Naturalmente ci vuole anche un po' di delicatezza. Mai ho dato disturbo a nessuno, mai mi sono, cioè si è lamentato soltanto una persona che abbiamo discusso qualche settimana fa insieme con Falchetto, che dice che entrava in una casa nel telefono e con Gio Maria siamo andati a contrare e ci sapeva, l'avevano fatto l'impianto nuovo, quelli dei telefoni, ma per telefono era andato dai cinesi, no, i cinesi non c'erano ancora, era andato non so dove e se l'ha preso, si è preso un telefono di 10 euro, oppure diciamo di 15.000 lire, allora c'erano le lire. Allora, ha detto, ma lei lo sa che anche questi apparati bisogna essere omologati, anche il telefono se doveva sentire quando eravamo noi. Allora, sa, ci ha comprato un telefono omologato e non ci ha fatto più osservazione, le abbiamo chiesto, no, adesso non vi sento più, visto là. È inutile che andiamo a scocciare agli altri, quando volete spendere 10 lire, avete la roba per 10 lire, non è così, perché? È positivo Mario, positivo 100, infatti io ho riferito quello che adesso ho sentito da te e la signora ha cambiato l'apparato e tutto al 100%, hai visto? E già aveva uno di quegli apparati proprio presi senza essere... di questi apparecchi telefonici che non avevano modulazioni, cioè non erano omologati per poter, mi ha capito? Beh, è logica, ogni cosa assolutamente, ma mai ho disturbato a nessuno. Ah no, mi ricordo soltanto una volta qualcuno del vicinato, ai primi tempi, allora era tutta diversa la frequenza, capito? Capito che ancora nemmeno erano pochi mesi che era uscita la legge della concessione, altrimenti con Gio Maria quando potevamo modulare la sera su tardi salivamo in terrazzo, addestravamo l'antenna e modulavamo durante la notte, capito? Dopo la mattina salivamo e coricavamo le antenne, dopo nel 74 era uscita la legge per questi apparati omologati, non erano ancora omologati, non erano, che chi voleva fare dicevano che bisognava, immagina che allora ci voleva, se volevi modulare ci voleva, come andare uno carabinieri, certificato penale, buona condotta, hanno residenza, qualche firma dal vicinato, ci vorrebbe gli stessi documenti per andare in carabinieri. Purtroppo era così, allora funzionava così, capito? Riprendi Massimiliano. Riprendiamo, vai, un secondino di bianco per me che sto facendo una cosettina, allora riprendete, riprendo subito. Hai capito, noi abbiamo discusso già tanto tempo di questi qui, dopo dal 72, dal 74, si poteva modulare. Dopo, siccome io ho avuto sempre apparati, gli stessi apparati, non ci sono passati una quindicina di anni, ricevo una lettera dal PT di Cagliari dicendo che io stavo modulando con apparecchi non omologati. Allora hanno cominciato gli apparecchi che omologati, ma a me non mi è entrato mai in orecchio. Allora ho preso questi che sto modulando adesso, ho preso tutti i dati, e gli ho mandato i dati e mi hanno trovato una risposta. Adesso lì è a posto, c'è l'apparato omologato, quegli apparati che c'ha li può tenere e continuare anche a modulare con quegli apparati non omologati. Certo, e quando fare la spesa in più, dai. Beh, naturalmente la legge è uscita, ci voleva apparati omologati, anzi sono stato sino a troppo io, modulando con la concessione e apparati non omologati. A ultimo mi hanno mandato la lettera loro. Positivo, Mario, positivo. Sono tutte cose moderne, e adesso basta fare la domandina, ti mandano la concessione, non c'è bisogno più di tutti quei fascicoli di documenti. Positivo. O anche adesso quando c'hai la concessione, per esempio, da quest'anno vale per 10 anni, e dopo ho sentito automaticamente dai computer che non ci vuole nulla, basta pagare onestamente ogni anno quello che c'è da pagare e puoi stare sempre anche 1000 anni. Sì, quello è vero, e confermo quello che dici Mario, perché è così. L'importante è che uno onestamente paghi la sua tassa e non c'è problema. Ok, beh, è logica. Stiamo attenti, oggi è sabato, tu sei a casa e domani è domenica. E stamattina io ero, non tutta la mattina, già mi sono sbrigato presto, ero di controllo, ero già di 6 mesi di controllo di glicemia, di tutto, capito? Sono andato con mio figlio, mi ci ha accompagnato lì al centro diabetico e ci avevamo alle 7 del mattino 186 persone, io ero il settimo. Alle 8 abbiamo finito tutto, alle 8 e mezzo, là, le analisi e cose varie. E qui mi ha detto, adesso finché di chiedere per prendere l'esito. Mio figlio è passato, ha preso l'esito, a continuare lì come stiamo continuando. E abbiamo fatto tutto con mio figlio, ci abbiamo fatto un bel giro in macchina, capito? Siamo scesi a Porto Torres, siamo passati a Platamona, è tutto lì, ho passato la mattinata così. Cappa di Rogero, anda bene veda. Ok Mario, dai, io ti saluto che devo fare qualche lavoretto. Ci ascoltiamo tutte le prossime, dai, se tutto va bene, dai. Oh, perché? Grazie della chiacchieratina, salutami con R.A. Già ci sentiamo alle prossime, noi anche io adesso mi assento un momentino, è tutto. Se purtroppo è in ascolto, lo saluto ugualmente lo stesso. Buonasera a tutti. Ciao Mari, alle prossime, ciao. Segnale. sì. No, dai, c'è una bomba. Vai up. Poi c'era poco, io l'altro giorno qua, siccome questo qua è 34 operari, ho fatto quello che mi hai detto tu. Ho provato a rompere quella lettina che c'ha il coso. Mi segna 35, 36 fino a 40, però non me li dà. Sì, 40 te lo dà, però gli altri 4 no, gli altri 4 si risultano, 1, 1, 2, 2. Infatti, io vado 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dal 35 in poi mi dà muto, capito? Sì, ho capito. Comunque, con un 4 di telefono ti dà canali alti, ti lascio voi. Perché io l'ho modificato uno l'altro giorno, e l'ho anche già venduto addirittura. Arriva sino al canale 46, figurati. In pratica con la colonna di vettina mi dà i canali sotto prima, perché mi dà 34 canali sotto. Più altri. Gli altri che mi mancavano, capito? Ma io i canali di sopra ce li ho già qua. Sì, non ne hai 34 sotto però. Sì, ne ho 34 sotto e 34 sopra. Allora, Murisca è già fatta. Io me l'avevo già fatto così, con i canali così, capito? Io basta che vado con un pulsantino, vado sopra e me ne dà 34 sopra. Vado. Allora, in poche parole funziona così questo. Al centro c'hai i 34 normali. La levettina sopra ne è 34 sopra, lo vai sotto, dai con la levettina giù e ne è 34 sotto. Allora, infatti, è fatto 34-34, e allora l'ho già modificato. Sì, l'ho già modificato, però io ne volevo 40, capito? 40 sopra, 40 sotto, 40 sopra. Per fare una cosa del genere devi farla modificare, devi cambiare il commutatore, ma cosa, e poi cercare di mettere i cavetti non è così facile, capito? Il commutatore vuole cambiare e poi collegati dei cavetti, però ci vuole uno schema per fare una cosa del genere, non è che lo da fare così a un chilometro, ci vuole la modifica da internet, già c'è. Ah, c'è per tornare al 34S? Sì che c'è, su internet c'è. Vediamo. Vabbè, chissà quanto è la spesa per fare questo lavoro. No, non lo so. Non te lo faccio lì. Vediamo. Vabbè. Già ce li ho gli apparati che vanno a 40 canali, non è che non ce li ho, Ne ho anche che fanno da altre parti, però. Per il momento mi tengo questo, è completo, capito, c'ha tutto, non hai 40 canali, però c'ha tutte le bande laterali e tutto, no? Ho capito, sì, vabbè, mi pare che c'è da quella normalità, c'è da tutto. Tutto c'ha, ti dico che c'ha tutto quanto, c'ha tutte le bande, c'ha le FM, c'è il canale sotto, sopra, non c'ha i 10 kHz, però vabbè, lo stesso. Sì, va bene. Sono uscito di radio, appunto. Adesso è uscito, sì. Ho detto che per fare dei canali alto ci vuole molto, basta mettere in serie al chilino del quarzo. Un condensatore variabile, capito? E ti fa lo spostamento di 10 kHz. Quello non ce l'ho, E adesso fa il 4, va. E un pulsantino ti fa il cali alfa, basta. E mi sembra che secondo quanto è la spesa, me lo faccio. Il cali alfa è anche stata a farlo. Qui così ci sono le fitte di modulazione lento, uno di quei così basta attaccare tutta la modulazione e c'è quel condensatore variabile piccolino, li metti quello e ti fa lo spostamento di 10 kHz. Vabbè, bisogna darlo a qualcuno, lo sa fare, io non ne so più, no, capito, punto. Sì, basta avere Calvino, 5 minuti ce lo fa, già glielo spiego io come fare. Perché se me lo fai tu non è la stessa cosa. Non lo faccio io, non cambia nulla. Perché tanto Gavino... Gavino non ne vuole fare di questi apparati qua, capito? Non gli piace. Gli piace, non c'ha l'attrezzatura giusta e giustamente magari non gliene frega neanche niente di farli, capito? Ho capito, ho capito. Ma potrebbe essere questa spesa per fare questi canali così? Ma per fare i canali alfa? Beh, in campo. Che te lo faccio, sono preoccupati della spesa, non ho mandato mai nessuno io. Dimmi, te lo faccio e basta. Vogliamo. Mi sembra che te lo lascio, quanto ci vuole a farlo? Una giornata ce la fai? E io una giornata sì. Allora mi sembra che te lo lascio un giorno e via. E andrà bene, quando vuoi, non c'è problema. Tanto tu stasera sei su a cosa, vero? Su a Carbonazzi. Io sono sempre a Carbonazzi. Chi si muove da qua? Non ci sono giù a San Donato. Era lì che me ne sono andato, un mese e qualche cosa. Ma perché non ci sei più tornato lì? Sei stato ci vado a visitare le amiche che ho, capito? Quelle che fanno giù giù. Poi tanto mi esce qualche lavoro e glielo faccio. Capito. Ti avevo visto tutto, Antonio. Tutto, antenna, radio, tutto quanto l'hai tolto. Sì, ho fatto tutto. Quando parli di tunica, l'ho tolto da subito. Io si stavo guardando tutto. La gamba non c'è più, capito? La mantova era fuori, l'ho presa, l'ho messa dentro. Adesso me la devo pulire bene, poi me la salvo qua e quando sarà il momento, io la piazza. Quindi te lo danno il permesso per metterla, sì. E se non me lo date me la piazzo io a voi, e tu potete subito i miei pari piatti. Brava. E lui magari quella che l'appetti conviene dalla cosa, se la vuole. Ma la falchetta, se la vuole piazzare. Ah, io c'è la falchetta, se ti la roba 27 stelle, figurati. Lo si è messo? Se deve prendere la via 27 e si deve comprare la Giomaria 40 euro. Ma come c'è 18 variali? No, c'è 6 variali questa. Vabbè, ma mi stavo dicendo, già per piazzare la 2001 deve entrare in un appartamento, salire, cioè deve rompere le scatole a qualcuno, capito? Per forza devono fare a fare lì, deve passare un carrozzino lui. Te la conosco con la palazzina, se ti fai rispettare ti fanno salire, se no lì non ti fai la sappannuta, anche se è roba condominiale, capito? Bravo, aspetta un secondo, Antonio, che ti attacca piccolo. E io d'accordo. Oh, ci sei. C'era cosa, fai tetto del 5, ho detto se passava qua, si sta chiudendo il microfono. C'è la piccola il microfono. Io non lo so cosa stava combinando, però siccome poco fa ci stavamo facendo anche il tetto del 5, ho detto passare qua. Ya, yeah, non c'è problema. Se vuoi passare il tempo d'occhi. Ya, sono la scopola. Cosa stai combinando? Ma sono amico il microfono lì, aspetta, quello della... quello giallo. Eia, c'aveva il filo della massa sbucciato, rotto, capito? E usciva o non usciva? Stavo risaldando qua, la verità, perché qui sta, gira il giretto, sta funzionando, se non lo tocchi per niente. E invece ti faceva parlare con il freddo e si spegneva. Positivo, mica adesso gli ho cambiato tutti e due i fili, nero e bianco e nero e rosso. Sto saldando, chiudo e riprendo subito. Certo, un microfono nuovo che mi tira così dai problemi, non c'è ricorrere. E ti dirò di più, c'aveva la vista con la spina si accendeva. Entrava e usciva dai fuori, ho dovuto mettere due gocce di stagno. Entrava e usciva dai fuori, cioè roba da parte, cioè un microfono nuovo, non ha paura. no, di quello ormai siamo al controllo di verità, quando va bene, tutto si è chiaro, la verità va, veramente come ho pizzato, ma si è passato questa sera. Io chissà, da solo in ascolto, riprendete va. Ma dove, qua si riesce a vendermi questo MVP5, 45 euro se va. 45? Questo è troppo. Sì, questo è questo 30. No, questo è 30-40 euro, ma è da Fusaro. 30-40 euro? Io so che da Fusaro costa 65 euro, l'MVP5. Non so per imparare a pagare 30-40 euro, una cosa del genere, se non mi ricordo male. No, se vedo ha pagato oltre 50 euro l'MVP5. No, mi pare che aveva pagato così, o il più 4 forse era che aveva pagato di meno. Infatti siamo fatto cambiare, poi mi sembra, ah sì, c'è ragione. Perché lui all'arrivo versato sembrava aveva pagato, l'altro aveva aggiunto mi sembra 15 euro, una cosa del genere. Allora, questo qui è usato pochissimo, quindi lo sto usando questi giorni, così ho fatto le connessioni per questa radio e lo sto usando così là, però siccome a me i microfoni da tavolo non è che mi piace più intanto, perché se trovo a fare cambio con qualcosa lo faccio cambio. Ah, vabbè, va. Vediamo un attimo, c'è gente a casa, 5 minuti per X. Sarà dove è il microfono? Le volte sono andate. Ahi? E allora c'è il tempo di farmene un'altra. Ebbe. E allora me la scappo. Andrà bene, veda. E ti dà il vostro bulletin di mia, va. Intesa, dai. E cicchi, sì. Dai, 2 secondi e riprendo subito. Attenzione, canale 21, se c'è qualcuno che vuole entrare, Cappa e Rogero. Davide, la vede farà, Davide, ma che... Attenzione, canale 21, dammi... Falchetto, Falchetto, oggi sei andato. fare adesso? Attenzione, capo! Concordo un bambolino, brava! E ma come si sente? Vabbè, è tu che devi sentire a me, com'è? Ah, va bene, va benissimo! E capo, ascolta, naturalmente affondo scala, sì. Sì, va. C'è tutto... Fammi un passaggio, vedi qua, vi dico com'è. Fai prolungato, capo. Capo! Capo! Adesso. Allora. Riprendo fra una decina di minuti. Positivo. Tanto ne approfitto a cambiare apparato, dai. Ok, ero già da centro, dai. Hola. Rogere a 101% cambio. Hola. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saltori, non c'è nessuna rotta. Ah, non ho sentito nessuno, qualche persona che stava provando qualche radio. Comunque buonasera Graziano, da questa parte parchetto, eh. Ehi, già lo so che c'è il parchetto. Cava, cava, già stai arrivando bene. E tu come mi occupi? Perché adesso ho messo in moto altro, lì lo itti. Ah, pacetto qua, dai. Tutto Roger e Grazia, tutto a posto. Cava, cava, ehi, se no, lo lascio troppo spesso fermo e prendi colpi. Ehi, no. Devi accendere, se no guai. L'ho acceso anche stamattina e c'era Gian Maria, stamani con Mario. Poi stavo facendo cose, li ho lasciati, altre già accendeva stasera, non l'hai sentito. Ehi, positivo. Ho sentito Mario poc'anzi, dai, la verità si dica. Paragava, e anche Antonello c'era stamani, stasera non l'ho sentito, va bene, lo sto accendendo. Positivo. Bene, ti sono arrivate con le coordinate. Scappa di Roger, bene, chiaro, pulito, recuaro proprio. No, abbastanza pulita come a radio. Scappa di Roger, sono contento, eh. No, stavo provando adesso, ho messo un po' in moto i Mobic, Inter che MP40, capito? Lo stavo facendo girare un po', adesso sono in ascolto, ma se mi stai girando bene, che dici? No, già è abbastanza chiara e pulita come voce, come radio. K, e io è qui che pure l'ho alzato, vedo abbassamenti di lucetta nello smitter, evidentemente l'alimentatore non anda benissimo, la di questa manetta è per dire grande, è un Intec, solo che è voluminoso, però come cosa c'ha solo 3 ampere. Positivo, no, ma quello manca ai miei apparati, dai, un po' di abbassamento lo fa, dai, vuol dire che ci sono molti fatti, capito, e assorbe. Ci avevo installato lì dentro 2 ventoline, anche 3 finirami. 2 le ho levate e ne ho lasciate una, la più grandetta, di quelle ventoline dei computer. Perché prima non me lo faceva prima di aggiungere quella ventolina all'interno, perché non c'era, perché questa estate bolliva subito, scaldava un bel, anche se c'è un bel di asole per l'aria, scalda un bel qua in estate, perché c'ho la terrazza che è chiusa a veranda, fa i vetri, va bene da lenti, anche se c'ho la tenda, il calore si sente lo stesso. Capa di Rogero, è normale che sia così, grazie. Vabbè, importante che trovi un punto dove possa raffreddare meglio, diciamo, vai. Raffreddare già raffredda, perché qui in estate lascio le gardaniere tirate e c'ho le ante scorribili, c'ho due ante grandi ma enormi, e praticamente sono 4 vaccone, se butti chi so. La apro un'altra e sono 2 finestre, diciamo, 2 da una parte e 2 dall'altra, poi c'ho le vasità sopra, le ventoline, già aria già ne entra, non è che non entra, poi con la tenda abbassata già circola, solo quando c'è l'aria a casa noi che ti tenga l'orecchio più di quant'altro, il caldo lo senti lo stesso, un po' di meno perché non c'è il sole che ti batte in faccia, perché c'ho la tenda, però l'aria calda già la senti, tutti in usa. Ciao, va bene, grazie, è importante che è sentirci, dai. Scappa del Roger, no, mi ho procurato anche uno di quei mobiletti con la ruotelle di sedia o no, con lo sportellino in basso di vetro, in adibucato lo sportellino. E c'era in garage, non so se portarmelo giù e trasferirmi tutto il giù, smontarlo e tutto, da sulla mensola, perché ce l'ho sulla mensola, gli apparati, sotto ce li ho avvitati uno sopra l'altro, distanziati un po', pulce, microfono, rosmetro, alimentatore, deviatore, su quella mensola. Ma volevo mettere tutto su questa specie di carrellino, diciamo, no? E sarà praticamente in mano come tipo quelle stufe a bombola, a gas, che te la trasporti. Un appare del genere, solo che non c'ho il posto dove appoggiarmelo. Perché di questa maniera me lo posso toccare anche, non so, all'interno della cucina o in salone, capito? Però io faccio lungo, è un buco, cioè già è grande, ma è troppa roba in occhi. Gatta di positivo. Ehi, la sagata lo lungo, ma c'è giallo, dai. Non è che la coppia ce ne sei molto, che il radio, dico, dai. La radio così com'è non le dà in figlio, perché sulla mensa la capisco. Però mettevamolo sul carrello, poi il carrello non so dove metterlo, quel carrello di ferro, cioè i piani, capito, me lo posso sistemare lì bene, ma poi da prima non me la rombo, Registrato a te, avanti con la buonasera. Buonasera, un vicino alla radio, grazie. Papà, ciao, ben sentito. Ciao Gianni, sono. Ho sentito l'altro giorno che tu avevi radiali, qualche radiale ti ha raccolto, guarda le radiali di freddo, non ce li hanno. Già lo so, ma ti ho recuperato perché sono rimaste sopra al tetto, perché dove sono io il tetto ce l'ho atterrato, capito? Li ho recuperati tutti e tre i radiali, uno era appena sbeccato, però gli altri sono interi. Praticamente come salivano le gurracce, il dondolo oggi, il dondolo romano, l'oscillazione me li ha fatti sfilare dalla burchia, no, che c'è abitata su all'antenna, nella crociera dove ci sono abitati i radiali, perché i perni sono rimasti attaccati a vita, solo lo filo me ne sono caduti, capito? Pensavo che potesse essere io perché stamattina le ho viste. Ehi, allora gli hai visti? Le grassi. Ah, a prendere da lì. Cappa, io sono ancora a andarci da grassi, che punto è che rimane, non me lo ricordo, ma dove c'è il coso, quello che c'è l'ambia sorso, come ti si chiama? Alla Ruggino, quello delle vernici. Palmieri c'è? Palmieri, lì in quella zona lì rimane. No, ti devi entrare, la traversa prima della Mercedes, dove c'è Marco, ce l'ho presente. Vai, si dà fondo, prima della curva si sono sulla destra dei capannoni lì. Ah, dove c'è quelle cose che vendono le carrozzelle dei pupi il nido del bambino, sai? In quella via lì larga devo girare. Però se c'è Giuseppe, ci sei? Vabbè, non c'è. Ok, anche ai turisti a me. Già siamo qua, là. Riprendi qualche. Positivo, dai, positivo a 100, stavo un po' riordinando qua, stavo saldando un microfono e adesso stavo riordinando, e così è, dai. Ehi, cappa di Ruggero, io adesso, prima volta senza andare da Melegrassi lì a vedere cosa c'è di buono, tu una volta senza andare. Una vita. No, io da quando è lì non sono andato ancora a vedere cosa c'è. No, io non sono andato perché mi servo lì da via 4 novembre, dai, da Posano e non sono andato per quello, dai. Ah, cappa, e anche lì sono andato ultimamente, avevo preso dei PL da quello lì. anche sulla CBC avevo preso il filo, mi sembra, per fare una prolunga per quello di campagna, e anche piede, anche lì avevo preso. Solo per la via in plastica e macchilicchia non ve la via, due me li aveva anche Gio Maria e macchilicchia che sono migliori. Positivo, mia la sera le ha montate in macchilicchia, se ti servono, ce li ha, Perché quelli in plastica non è che siano molto garantiti, già sono migliori quelli in macchilicchia. E non credo, quelli in plastica vanno saldati, si girano se stessi, non vanno bene. Infatti, perché varie ispezioni che mi avevo fatto poi erano difettosi, infatti ce li ho a parte con gli ispezioni. Sto utilizzando quello che mi aveva dato Gio Maria, che l'avevamo salvato qua, con quelli macchilisti. Appagata, sono migliori, dai, grazie, no, è inutile saldare, cioè spendere per dire. Non spendi molto, ma quello che spendi si deve prendere buono, capito? Se no tanto vale spendere quattrini in vano, vai. Quello sì, ma a volte mi serviva l'urgente per campagna, per farmi una prolunga dalla camera da letto a portarmi fuori nella veranda, capito? E allora, quello è stato scorsa. E allora gli avevo preso, poi vuol dire quando li compro li sostituisco, però già funzionava armato, se non mi toccava rimanere in campagna, ho posato in macchina, trattare su di la macchina, o in camera da letto, sopra il letto, e usare quello in camera da letto. Invece con la prolunga me lo portavo sia in cucina, o sia pure nella veranda, capito, vado a cirugia. Dallo ancora mi attaccavo l'alimentatore sotto la veranda, era più bello, al fresco. Non credo bene, è così. È così, bisogna sempre adattarsi, trovare il sistema più facile, più breve, capito? Piano piano gli avrebbe un cappuccio bruisce. Anche qua in casa, per dire, c'è il deviatore, dal deviatore alla camera da letto qua in casa ce l'ho già per discorso, ma l'avevo fatto un po' di tempo qua, e poi in più c'ho anche, posso deviare quella boomerang piccolina che ti avevo detto, c'ho due entrate, due cili c'ho là in camera da letto, volendo me la attacco in camera da letto, prima me la attaccavo tanti anni fa, adesso invece l'ho sempre lasciati, però non li ha mai tagliati, il bus è sempre trattato. Questo è vero, si può sempre trattare. Infatti non li ho mai demoliti, là, tirati, me li ho sempre lasciati, non si sa mai, mi buttate cagate cosa, e vi lascio pure in camera da letto, invece venire qui, se sono in camera da letto, ma sono in camera da letto. Campo che è positivo, e così è, almeno ce li hai, capito, ce li hai a portata di mano. E infatti, e poi lì, quando me lo usavo in camera da letto non andavo a passeggiare a nessuno, perché era nell'angolo tra la chiesa e come, sulla mensolina lì, ed era a posto, tranquillo, quasi a bruve, solo che poi, e se volassi e chi sa usare un garnire, se sto canto, si ha posto un mobiletto, però lo busso sempre lui volendo, ma tanto io metto sulla cuccante, a meno che non mi intendia male, allora sì, se no già mi sono qua sempre in veranda. Ciao, c'è stato un break, avanti il break. Buonasera, ciao Gufo e ciao Falchetto. Buonasera Mario, ti rilancio Graziano. Cappa, buonasera, ben sentito Mario, Cappa del Roggero. Sì, ho acceso, mi stavo ascoltando. Va bene, ma i tempi del comodino, è finito il baracchino, Gufo. già lo so, ma tanti anni fa ce l'avevo. No, che comodino, faccio una mezzolina, gli vi l'angolo, no? E poi i comodini non si sono più, li ho eliminati io. Cioè, una di, quando stavo lavorando in falegnameria mi avevo fatto due mezzoline, ma belline, di in noce, poi le verniciate verde e colore verde chiaro, verde acqua, perché mi avevo cambiato anche il letto, perché c'avevo il letto con il cassone a intessata, con la radio incorporata, capisci, e il portacuscino, e poi giù c'era la risvolta tutta in velluto e non era lungo di basso. Allora l'ho sostituito con quelli di fila di ferro, quando sono usciti di moda quelli letti in ferro. E siccome che verde acqua, allora l'avevo fatto così. E c'è più spazio anche per passare in giro al letto adesso. Prima lui devo passare dritto dritto, non ci passava, poi avrebbe male anche gli sportelli dell'armadio, capito? Così invece sta più bene. Papa di Roggero, e allora fa che? Oggi tu sei a riposo, non hai lavorato, io invece ho lavorato. Lo so, il vostro lavoro è diverso dal nostro, ma abbiamo lavorato venerdì e oggi siamo di riposo, tutto qua. Mario, che devo fare? È così la vita, se la vita. E qui, messi, se la vita. Allora, e cosa ci vogliamo fare? Va bene, allora, sentire a campare. Pomponio, non si è sentito, no? Sì, io l'ho sentito, sarà una mezz'oretta fa, e ci siamo visti anche in verticale, perché sono salito, niente, per verificare il microfono del mobile, che, e niente, tutto qua. Non so se adesso sia in casa, sia ancora lavorando, dai. Gappa, e lui sempre qualche cosettina ce l'ha da fare. Gappa, è positivo. Doveva aggiustare anche quello che gli ho portato io l'altra volta. Uno si baccuzza, l'altro ha detto di rubare il mappisi perché non ha trovato i pizzi. Ciao ragazza, comunque già mi sta mettendo a posto quello con le bande laterali. Ciao, solo che è un barrazzone troppo umano. Ehi, troppo umano, che apparato è? E adesso non me lo ricordo il nome, allora non me l'ha messo, che la può sempre conservato, ma è ben grande, c'ha 40 sotto, 40 sopra e due bande laterali c'ha, già ne ha canali già, c'è anche forte, solo è un bel manno, e in natale messo è no che non mi cazzia, per quello che ce l'avevo sempre conservato, non lo usavo mai. La figa, Romì, ciao Giammarì, buonasera, ben sentito, come va? Tu drommi, basta, ti sento, mio, o alzi il volume, o ti scendi re. E a capire già ti capisco. E beh, quante pennacchielle ti hai fatto? Dalle due. E cosa trovai in campagna? Se tu ti giocciò, poco ti travagliava, vai. Ma che era no? Ehi, la Giammaria, il parchetto, le ricorda, se si ricorda di portarmi con la commissione. Ehi, oh Giammaria. Panchetto mi ha detto se ti ricordi di portargli quella commissione, ma non lo senti tu perché? No, oh, non lo sento, no. Grazie. Ma se sta parlando? Panchetto mi ha detto che non si è ricordato, si è dimenticato, alla città che entra, la settimana prossima, è ok. Ringrazio lo stesso, dai. Ehi, Gio Maria, ha detto grazie lo stesso. Vabbè, visto la tua di Drumizio in campagna, e non sta ammissato che lo vede. Gio Maria, attento Gio Maria. Oh, guarda che stavo sciogliendo. senza antenna sta buscetti. Me lo dimenticato Gasperi che attacco a buttare l'antenna. Meno male non ho bruciato tutto. Fate il televisivo, non riuscite. Cazzo, mi sono dimenticato di commutare la forza un tiro. Adesso va bene. Positivo al 100. Beh, va sensitivo. Meno male, a seguo la bruciata tu, capito, qua c'è, mi sono dimenticato veramente, perché non l'ho nemmeno atteso, ma ero già fatta la sera, per i canali, e che non ho avuto manco tempo di abbracciare, insomma, non mi sono commentato, ecco, noi che non poteva pensare, non mi sono commentato, ecco. C'è problema, Giovanni, non ti preoccupare, quando scendi un capo non c'è problema, vai. Ok, va bene. Mario! Giammai, ti stavo chiedendo, ma il Sommercan sempre ce l'ha in campagna, sì? Di cosa? Il Sommercan, l'FT. Oh, no, non ce l'ho più quella roba, no, non ce l'ho più, no, no, no. Oh, è già 2 anni mi pare che l'ha girato, non l'ha fatto Emanuele, non l'ha fatto, capito? Non ne ho più di quella roba, no, tutto roba piccola e basta, boh, non ne fai niente. K, allora anche quell'altro grosso hai fatto fuori? Tutto lui si ha preso, tutto lui si ha preso. Anda bene, veda. No, perché io già lo sai, ce l'ho sempre preciso al tuo. Ripeterlo, era sempre fermo lì. Come ha detto, si è attaccato, Romoria, si è appena autuato, si è passato, va. No, adesso mi lascio solo questi due che ciò è fatto, là. Questo qua e Raffaietti, là. E basta, chiave e basta, vero Gufo Cristo. Ehi, amato, guarda che il culo che è troppo piccolo, mi balla strano, capo, ma quanti ne sa bisogno? E poi mi sono detto, cazzo, come mai non senti la fa il palchetto, non lo sente? Se lo sento io, non lo senti fa sempre, ma non lo sente, tu? Siccome io c'ho il rosso, non lo sentissi, tocca quanto non si muove il rosso. Ho guardato bene che era senza antenna, ma se arrivavo lì ti puoi immaginare, ma che mi sentivo ugualmente. Oh, io non ti sentivo, no, Gio Mario. Oh, ma Mario, mi sentivo anche qua, meno male, mi è andata bene, dai. Mi è andata bene, e purtroppo così. L'avevo commutato la stamattina e l'avevo lasciato così e... Lasciai qua con gli altri, riprendi Mario. Dimmi un'altra cosa, il danno più 3 sempre ce l'hai. No, nemmeno quello, questo l'ho fatto a tutto, quello l'ho fatto a Giulio. Quello l'ho fatto a Giulio, l'ho fatto, no. Anche quello l'ho fatto, tutto a lui l'ho fatto. Hai fatto bene. Hai fatto bene, anda bene. No, io ti ho chiesto perché sapevo che erano cose che tu avevi. E niente, da. Quasi puntata, se non te li amici. Basta fare breco e uno entra e la porta è aperta. Comunque, buonasera. Ehi, là, buonasera, Massimiliano Bulldogger da Cueca, dai, buonasera a tutta la ruota. Gappa, me e compagnia mia, già mi hai conosciuto chi sono, e poi c'è Gufo Triste, poi c'è Falchetto e Gian Maria. Gappa, ciao Massimiliano, ben sentito anche a te, cavale Rogero, ehi, riprendi tu Gian Maria. Ehi, riprendo io, buonasera anche a Massimiliano. Capito a me, ma poi mi sono pentito che gli ho dato a quello lì. Quello là l'avevo fatto anche il coso, l'M più 3. Anche quello l'ho dato, certo. Adesso mi sono pentito che mi serviva e non ce l'ho io. Ho detto se me lo ridava le dirò, manca a parlarne. Già lo credo già. ha fatto un affarone, perché non è direi che si trovano facilmente quei microfoni, no? Ma infatti, e poi il mio era il primo che l'ho sempre chiedo, ero il primo che l'avevo acquistato qua, anche no, ce l'ha fatto. Dunque, aspetta che mi chiamava, quello lì che aveva preso al mio, l'avevo preso insieme, e Simbala, Pietro Faina, che adesso è passato sulle altre palle. Lui ci aveva preciso al mio, è stato acquistato insieme a quello là, e mi dispiace, 42 anni. C'è Brandente, Emilio Marì. E non ho più sentito a quello lì, chiedo un po', ma io gli ho chiesto a vedere se va, e per forza va quello sì, questo mai. Perché partire sole passa di poi ogni tanto. E non possiamo appunto poche mattine pure così. Vabbè. Ecco che ci vuoi fare. Va bene, riprende, faccia riprendi, che mi passa adesso. E auguri. Anche usando l'MPU-5. No, va bene. Positivo, giovani. Ci mancherebbe altro. Alla grande. Riprendi Massimiliano, nel paginale. Positivo, no, cellulare, anch'io sto usando l'MB5 con un tornado 34S. Dio Mari, dammi il controllo, fai dalla cortesia. E 69, 92, 93. La radio è una bomba, Poi linea d'aria siamo liberi per qui, amico. 92, 93, sì, dai. A questo qua, ma è un po' a fare questo mitere. Dio Mari, renditi conto, io sto scendo con neanche 5 watt. Se puoi, aspetta un attimo, vedi un po', se puoi mi contemplare un controllo così, abbiamo dato l'aiutino. Ma noi abbiamo aumentato molto, ho aumentato di 2 sacchetti e basta, non di molto, però li ho aumentati, dai. È inutile usare la potenza, io pure sono a minimo, sono con 4 watt, con la portata sua, capito? Per pensare non c'è bisogno di attaccare niente, già ti sentiamo e come ti sentiamo pure, abbastanza bene. Ti ha voglia Giovanni, ma a volte lo sai cos'è, a volte non ti sentono, un aiutino bisogna darlo, capito? Ma io in genere esco sempre con 5 watt, mi ascoltavo da tutte le parti, quindi non c'è bisogno neanche di sprecare corrente. Ma infatti allora, pensasse, vabbè, quando deve fare qualche piede. Beh, è chiaro, un aiuto se gli vai, fa piacere, però pensate a questa, guarda, io sinceramente non li ho usato mai, e non li userò mai, io l'ho dato e l'ho regalato, e l'ho regalato, anche a Giulio l'ho regalato, l'avevo dato quello lì e il microfono, che poi mi chiedi pure, per dirti no, che non mi fanno le cose qui, non mi fanno. Sono amico di queste cose, però a chi piace lo usa, non siamo tutti uguali, per cui per me va bene così, capito Massimiliano? Detto questo, Mario, Marte, cambio. Io invece sto usando un Midra 34 canali con 4 watt e mi sentono ugualmente, non ce n'è problema. Oh Mario, anche io, guarda, io i Midra li ho sempre usati perché hanno un modulatore bellissimo, hanno una bella radio, però siccome io ho gente vicino che modula, e quindi quando tu usi un Midra con la gente vicino prendi di quei colpi che neanche te ne accorgi, cioè lo smitter mi torna tutto indietro e rimane proprio zitto, in silenzio. Quindi preferisco usare altri tipi di radio che non prendono colpi, perché io il Midran ce li ho qua, c'è un 48, c'è un 68, il mio 2 è 48 e il 68, però preferisco usare questo che anche se stai nel canale vicino non prende colpi. Io c'è uno vicino e se attacco il Midran che lui sta modulando in altri canali lo sento negli altri canali che sta modulando lui, capito? Ecco, c'è stato un break, facciamolo entrare con la buonasera, fate il break. Allora, ho sentito Giuseppe nel sottofondo, buonasera a tutti innanzitutto. Giuseppe, guarda che sto uscendo nel forno, metti la M. Sì, sicuramente sei fuori frequenza, non sei in AM, perché io ti ascolto malissimo di radio. Vabbè, lascia perdere Santiago, perché tu arrivi a Santiago 5, però mi interessa la radio, ma stai uscendo malissimo. Avanti Gian Maria. Anch'io lo sento fuori frequenza, però deve essere in FM, deve essere, capito? Deve essere in FM, è per quello che lo sentiamo tutto di sotto. Avanti, no, ma mandate in AM, dai, vai di nuovo, vai. Sì, grazie, era giusto per sapere come sto uscendo adesso, cambio. Sì, hai visto? Adesso sì, sei 9 qua, 9 spaccato, la radio è perfetta. Tutto qua, ok. Ma si vede, io sto uscendo, comunque lo va 210, sto uscendo io, Com'è la radio? Ma lì una bomboletta, una bomboletta, qua guarda, se non è spaccato la radio Super 5 perché non si può dare di più, però se una radio di 5 bellissima, telefonica, Santiago di 9. Colgo l'occasione anche a salutare Giuseppe che adesso si è Santiago 8, radio di 5, dai. Ripeti tu Gian Maria. Infatti, adesso sì è lui, Giuseppe. Bene, ricevamo da Gufo che è in parcheggio, Gufo, triste, ma stasera si triste veramente, avanti. Ehi, ciao, ben sentito Giuseppe, infatti glielo volevo dire io che era in FM, perché ho messo in FM ed era in FM. Adesso già lo sento più forte e più bene. Cappa del Rogero, eia. Benveda, salutoni Giuseppe, allora anche a te, ben entrato nella rotta. Riprendi tu, qualche, rilancia a te. Cappa, salutoni Giuseppe, dai, adesso già sei in ultima frequenza, è pulito e chiaro, Va bene, accetto e rilancio a te il Mike, vai avanti. Grazie Falchetto e ben sentito, grazie per la comunicazione di servizio e niente, ti sento anche a te finalmente forte e chiaro. Avanti, chi stava parlando, cambio. La parola, riprendo io, rilancio Pierpaolo. Niente Pierpaolo, non riprende. Giuseppe, cosa hai fatto? Ti ha fatto l'antenna? È positivo, una Mantova 1, cambio. Abbiamo terminato proprio, che ne so, mezz'ora fa di sistemare tutto, cambio. Allora, dove abito io, diciamo che, Giuseppe, in linea d'aria siamo quasi vicini, nel senso che io sono a San Giovanni, sono dentro un buco e tu stai radiando dall'alto verso il basso e io dal basso verso l'alto. Comunque, radio bellissima, stereofonica, bella, 5, e segnale di 9, questo passaggio sì, segnale 9. E K? Non so se mi potete cambiare il rapporto di segnale. E vado alla grande, Santiago 7 e radio 5 in piena, cambio. Sì, un attimino, dai, adesso sicuramente il segnale è aumentato, vedi un po'. K Santiago 915 radio 5, cambio. Senti, allora è tutto rose, comunque la radio è bella, Giuseppe, complimenti per la radio, un bel segnale, rilancio per Paolo, vediamo forse è rientrato. Capo, sono guidando, la pia, riprendete voi. Parrogio, allora rilancio a Mario. Gappa, già state parlando bene, dai. Anche se io, a dire la verità, lo sento un po' nasino, forse raffreddato. È negativo Mario, sicuramente è problema di microfono e niente, dovrò provvedere al più presto a sistemarlo perché è l'originale delle 48, cambio. Ah, gappa. No, la radio è buona. Però ti sentivo leggermente nasino, vabbè, anche io sarò un po' nasino, ma qui è un po' sono raffreddato. Oh Mario, non c'è problema, tanto siamo in periodo di influenza, Gappa, uia, vabbè. Riprendi Falche. No, ottima, hai fatto un buon acquisto. È bellissima radio, sia di modulazione, sia di radio, sia di tutto, bello. Un buon acquisto, dai, complimenti. Perché ripeto, ti sento anch'io bene, ed era ora, perché prima dovevo stare con le orecchie puntate sull'apparecchio, ed era, diciamo, ora di riuscire a modulare con gli amici in maniera diciamo buona, dai. Giuseppe, comandi. Cappa Roger, va, sempre Massimiliano. Come mai ha fatto questa differenza tra la Ringo e la Mantova? Niente, perché la Ringo me l'hanno negata per 6 volte, Massimiliano. E arrivati a questo punto ho preferito spendere qualcosina in più e buttare sul tetto una Mantova. Beh, ma è acquistato qua a Sassari o da fuori? Qui a Sassari, nella sulla zona industriale, Massimiliano. Quindi mi stai dicendo ragazzi? È positivo, Massimiliano. Ascolta, io non è che mi voglio fare gli affari tuoi, ma quanto te l'ha fatta pagare quell'animale? Mi pare che me l'abbia fatta pagare 93. Vabbè. Però è la cosa, è la Mantova 1, cambia. Allora, guarda, Giuseppe, io ti devo dire una cosa. Allora, io quando ho piazzato, io ne ho 2 antenne sul tetto, oltre alla Mantova ho altre cose, anzi ne ho 3 piazzate. Tutti quanti mi dicevano, mettiti la Mantova 5, la Mantova Turbo, che è qua, che è là, bomba. Io ero sempre fissato con la Mantova 1. E ti devo dire che ce l'ho già 3 anni sul tetto, questa Mantova 1, e mi ha dato già molte soddisfazioni, che c'è gente con la Mantova Turbo che non sentiva quello che sentivo io. Io ti dico che ho fatto un buon acquisto, perché la Mantova 1 è sempre una buona antenna, confermi Giovanni. Beh, io ho provato sia la 1 e la 5. Però la 1, ripeto, me l'hanno buttata giù il vento. Allora non l'ho presa più, sono andato e c'era solo la 5, così che ho piantato sia in campagna che qua, ho piantato la 5, anche quella di Mario. Però è la differenza, diciamo, guarda, per me sono tutte e due di prima, sono tutte e due di prima, la Turbo non mi fa. Non mi va, tanto preferisco la stella che usavamo prima, quella la 8 radiale, non questa di adesso, la 8 radiale, era molto migliore, però la Mantova 1 è una buona antenna, e anche la 5, così che però già metto lo stesso segnale mio, capito? Tutti e due la stessa segnale, cioè, perché lui per essere più vicino a me dovrebbe arrivare più forte, però arrivi come il segnale tuo precisa il suo materiale. È positivo, dai. Rendete conto, Giovanni, io sono a 1 chilometro da Luigi Vulcano, però io sono a San Giovanni, internato interno, diciamo, proprio dentro San Giovanni, in un buco. Cioè, nel senso che voi verso Sassari siete molto più in alto, anche Lima Delta, quelle zone dove sei tu, io l'ho vista la tua antenna, dove diciamo che per casa mia sei molto coperto. Io sto radiando dal basso verso l'alto anche. Diciamo che la 1 più o meno ha le stesse prestazioni della 5, secondo me. Ma è così, né più né meno, la differenza magari la notiamo sui decimi di guadagno che c'è, dalla 1 alla 5, se noi guardiamo quanto guadagniamo che c'è la Mantova 1 mi sembra che c'è qualche decimo di guadagno in più, la 5 di meno, però a me mi sembra che dà più soddisfazione la 5 che la 1, davvero, però se siamo lì, ecco, poca a poca differenza, secondo il mio parere, dopo ognuno la vede a modo suo, però diciamo che dovrei già sacco cuore, qua dovrebbe arrivare, non dico poco, almeno a 9.15, 9.20 dovrebbe arrivare, perché questo è un po' a barba, questo smizzo di questo apparecchio. Mario, guarda che arriva a te. E lo smizzo mio è fasullo, là. Il mio scende a fondo scala, capito? A me mi dà 9.30, ma è fasullo lo smitter, è un Midland vecchio e niente. E se se l'ascolto magari con l'altro apparato il segnale è diverso, però qui sia Falchetto che lui mi danno 9.30. Riprendo io un attimo, Gio Maria. Sì, vai, vai, vai. Giusto per dire che sicuramente non sto arrivando bene perché ho l'apparecchio che è sotto, ripeto, sottoalimentato, cambio. Ma può essere anche quello, ma dovresti già arrivare anche più forte, siamo vicini. Noi in realtà siamo un chilometro e mezzo, non di più, capito? Ecco, facci di più. Vediamo un po' a Gufo quanto arrivi. Gufo, quanto arriva a te? 9.15 mi sembra. Fa passaggio a vedere Giuseppe. Allora, Gio Maria mi sta arrivando a me a 9.25 e tu 9.15, cambio. La cappa è così, io sono più giù di Gio Maria, sono all'imaretta però verso giù, si può dire vicino alla pretella. No, grazie. Allora, Massimiliano Bulldozer, quanto ti arrivo? Che sono io, vedi un po'. Qual è il passaggio? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10. Allora, non so cosa dirti, perché Giuseppe, se la piazzata la manda a 1, da dove è lui, a Sacro Cuore, da casa tua a casa di Gian Maria, di Mario, lì deve arrivare minimo, senza esagerare, 9.25, 9.30. Rendi conto che io sono molto più lontano, diciamo, sono quasi lo stesso segnale di Giuseppe, stiamo uscendo gli stessi watt, perché io sto dando 5 watt. Ma se vi là? Sì, arrivi già. Sto uscendo con 3 watt, cosa? Perché ce l'avamo noi lì a portare la testa all'antenna, anche se lui aveva fatto quello che faceva noi. Sto uscendo con 3 watt, e abbiamo misurato con Pierpaolo, cioè 3 watt al baracchino. Quindi, se le watt non sono le stesse, si può fare un rapporto. Ma già, io sto uscendo con 2 watt in più. Renditi conto però la lontananza che siamo. Lui a Sacro Cuore, io sono a San Giovanni. Hai capito? Gio Maria ci ha dato lo stesso segnale. Io non c'ho niente. Io sono staccato, c'ho 5 watt. Vabbè, non so cosa dire. A me non so come si dice adesso. Staccato già, staccato. Staccato. Però la vedi di considerare anche la ricezione mia, io nella mia antenna ci manca nel radiale, viene rimasto uno. E anche quello vuol dire. Grazie, tu a me mi stai arrivando 9.5. 9.5 diciamo che tu sei molto più aperto per la mia zona. E lui mi sta arrivando a Santiago 9, sono 5 in più. 5 IS in più, capito? Io non sto usando nessun watt, sono 5 watt perché non ho la possibilità di attaccare. Perché se no ti avrei fatto sentire la differenza. Ok, dai, riprendi tu Mario, vediamo un po'. Sì, va bene, dai, riprendo io per per dirvi che grazie a Dio mi sento di nuovo bene e chiari e soprattutto di Radio Buona, dai, siete tutti che entrate qui a Radio 5, anche se c'è magari qualche differenza tra uno e l'altro di Santiago, però vi sento bene tutti quanti, cambio. Giuseppe, non ci siamo capiti, tu da Sacro Cuore a Latte Dolce, diciamo che sia un passo, quindi diciamo anche uscendo con 3 watt, lì dovete arrivare almeno 9.20, minimo 9.20 come tipo di segnale, con 3 watt, hai capito? Però se io sto uscendo con 5 watt, tu stai uscendo con 3, però tu sei a un chilometro da Latte Dolce, io sono minimo sono a 7-8 chilometri e abbiamo lo stesso segnale, ecco che non riesco a capire. Avanti Gio Maria, vediamo un po'. Allora, Bullose, a me mi stai arrivando qui 9.10, leggermente scarsino, là. E invece coso, il palchetto mi sta arrivando a me, e guardando un maracchino sirio, mi sta arrivando a 9.30. Palchetto ti arriva a 9.30? Allora non è molto un maracchino sirio, Mario, scusa se te lo dico, però c'è gente che vicino a te che ha dei maracchini sirio e non arriva quel segnale, palchetto, da 9. Ascolta, quello che mi segnala il mio baracchino è quello lì. Tu arrivi quasi a 9.10 qui da me e il palchetto mi arriva a 9.30. Mario, avanti dai, Gio Maria, vediamo un pochino. Ma aspetta, per far sicuro che sia anche lo smettere mio, non lo metto in dubbio. Aspetta, c'è ancora la faglietta, dai, vediamo un po' quant'è la differenza da questo all'altro. Che poi da uno all'altro il bitter è vario, noi non è che siamo tutti precisi, comunque prendiamoci un compito in questo, che c'è più e meno. Adesso prendiamo con la faglietta, un attimo che va attacco, vai. Ma no, ce lo dai, no, non voglio dire niente, però Mario, lo sai perché te lo dico? Perché c'è gente che ha provato con baracchini professionali, più o meno i segnali li so, hai capito? Come ho sentito dire, poi bugia l'ho detto, bugia ti sto dicendo. Ci credo che sta arrivando a 9.30 Falchetto, non lo metto in dubbio, hai capito? Però tu diciamo, con fronte a Falchetto siamo alla stessa distanza, ecco, è quello che ti voglio dire. Ma no, Falchetto è arrezzito, tu sei a San Giovanni, lasciamo perdere, là. Falchetto qui in linea d'aria mi affaccia alla finestra e lo vedo, a te mi affaccia alla finestra e non ti vedo, anche perché tu sei leggermente in basso, invece Falchetto è in alto, capito? Perché la zona di residuo è alta, mentre che tu la zona tua sei in basso, sei quasi sotto tavola. Sì, sì, rendete conto Mario che io sono tra, per farti un'idea, tra Luigi Vulcano e Giulio Dollaro. Ecco, io sono in mezzo, però sono un pochino più vicino a Luigi Vulcano, ecco, più o meno fate questa idea. Ma vedi bene che tu, malgrado che sei in basso, che praticamente sei in un fosso, stai arrivando abbastanza forte, 9.10. Vulcano è più in alto di me, che mi affaccia alla finestra, ma Vulcano, Falchetto, mi affaccia alla finestra, se non lo vedo, capito? La differenza è lì, però lui sta arrivando a 9.30 qui da me. E tu mi stai arrivando a 9.10, però le radio sono tutte e due ultime, sia una che l'altra. Sì, positivo, anche io Falchetto lo ascolto bene, per esempio, vedi, io Falchetto lo ascolto con un segnale di 5-6, come Santiago, però la radio è buona. Ecco, lui c'ha il vantaggio che è sulla collina di Sassari praticamente, capito? Perché anche io sono alla Bretella, lo sai dove sono io, cosicché non è che sto dicendo una fesseria, cosicché lui, essendo in alto, ci copre tutti, capito? Cioè l'antenna sua ci vede tutti quanti più o meno, e giustamente tu sei più lontano e lo ascolti più basso, ma io che sono a un tiro di schioppo da Rizzito, il segnale è leggermente più forte, capito? Tutto qui, io adesso perché non posso modulare, perché non ho il microfono per quell'apparato lì, se no avrei modulato con quello, perché è andato in tilti e non capisco che cosa abbia. Sul 21 cambio. Un secondo, no, Mario, renditi conto che tu c'hai un segnale di 9+5 qua e la radio è ottima. Non ti credere che se cambi radio va meglio, comunque con questa che stai uscendo adesso va benissimo. Ho sentito che è entrato Gio Maria, volevo sapere un rapporto di segnale da parte sua. E ho che se 9.14 sei qua, 9.14. Mario è 9.60, vedo un po' e vediamo a cosa l'amico del Sacro Cuore quanto arriva. Avanti? Sì, grazie. Volevo giusto sapere e come sto uscendo perché ho avuto un problema all'apparato cambio. E 9:20, sì, 9:20, 9:22, dai, con picchi positivi. E accanto è il segnale, dai, ma è come ho detto io. Dai, certe volte di smettere non sono precisi da uno all'altro, comunque la differenza è quella lì, a massima idea, dai. Quindi da Sacro Cuore dovrebbe sparare bene, mi sembrava strano che arrivavo quasi più forte io. No, vi siete sopravvivato con Pietro, mi sembra che si chiama, no? Vi siete sopravvivato a prima. E già cambia la segnale da un apparecchio all'altro, dai. Comunque vanno bene, dai, più o meno. Certo dovrebbe arrivare anche più forte, ma come ha detto lui, è sottoalimentato e più con 3 watt, io ne ho 4 e più, che la differenza è quella lì. A te quanto ti arriva Cuffo adesso? Piano. La stavo guardando che mi sono assentato. Riprendi tu, già retro su. Ma niente, si lo è così, sì, no, dai, di trinca trinca. Ok, va bene, vediamo un po' allora. Mario? Giovanni, no, io siccome te l'ho detto, questo Midland è un bel vecchio e cosa, lo sto utilizzando perché c'è il microfono attaccato. E mentre che il 14 è andato, il microfono è andato a farsi benedire, non mi fa uscire di radio. E niente, sto usando questo qui. Però a questo qui tu mi colli lo smitter. Bulldozer che da San Giovanni mi colla lo smitter. Cioè a tutti quanti dovrei dire 9:60. Però poi, visto che stavano guardando i segnali, ho acceso il 14. Stavo guardando i segnali, lui mi arriva 9:10 e quello là mi arriva 9:30. Tutto lì. Mi ha detto che la differenza c'è, Mario, se tu stesso, ma ho sentito che lo smitter non è tanto preciso, per cui ecco perché ti arriviamo magari così tanto, per quel motivo, ma se noi segnali più o meno sono qui, dai. Ok, vediamo allora, Palchetto. Atta positivo, positivo, già vanno bene tutte le radio, già vanno bene. E di solito ci sarà sempre questa differenza di smitter, ma già vanno bene tutte le radio, dai. Scusate un attimino. Giuseppe. Eccomi, dimmi. Passa un attimino al canale 40. Positivo. Ok. Allora riprendo io, vedo un po' se Gufo se l'ha bagnata la gola, avanti Gufo. Ehi, dimmi tutto, ma io l'interno è, sento bene a tutti, e poi di segnale non me la potevo, io guardo sempre se ti sento bene, poi se il segnale è nulla, o è dito, o è vinto, non me la potevo. E peccato che l'interno è a tutti, quando sento male, allora lo dico. Ok. A me qua mi dice proprio il numero del segnale, questo apparecchio, questo smitter. Esce il 2, il 2, 3, 4, 5, fino a 10, così che ti puoi immaginare. E mi dà anche il numero del segnale, capito? Poi il segnale, sai com'è, l'importante è come tu hai detto, la radio, e chi sia buono la radio, poi il segnale potrebbe anche variare. E variano anche quelli, la vale anche il segnale da uno all'altro, perché non siamo tutti in una stessa zona, non abbiamo gli stessi apparecchi, non abbiamo le stesse antenne e tante altre cose che ci sono, capito? Così che il segnale può variare, è benissimo. Detto questo, avanti Marie, canta, canta. Che ti passa? No, io ne ho tante a disposizione, però ne uso uno, adesso per esempio largo su, è andato in tilt il condensatore, ma il transistor del modulatore di AM l'ho mandato a mettere a posto. Sto usando il Midland, però la radio sì, sarà buona, tutto quanto quello che volete, però non è la stessa che uso. Beh, è chiaro che è tutta un'altra cosa, l'altro, Mario, aiuto, è normale, no? L'importanza, io ti stavo ascoltando quando si è bloccato quell'apparecchio, l'altra sera, mi sembra che quelli si sono un po' al chiuso, stavo ascoltando, e tutto a un tratto si è bloccato. Ma boh, allora, che altro c'è rimasto? Ah, quella uno c'era, quella uno, ci abbiamo lasciato il parcheggio, vai! Però varia, io lo vedo che varia da un baracchino all'altro, varia, molte volte varia di un mezzo, solo lo... Giuseppe, sì. Dico la parte vicino, magari di due antenne, ma più moderno. Passa qua, dico che varia, anche poi dipende dai tipi dei paratini, perché sono più forti, perché sono più deboli, capi, forma di cose sono. Però l'importante è che io sento bene, quando io sento male la voce allora lo dico, ma sarà mai tu di smettere. Bravo, bravo Gufo, bravo Graziano, bravo, tu sì che te ne intendi, e noi sottovalutandoti, va? Va bene, vero Mario? Allora, che so Graziano gli ha dato nel 21, anche io baracchino in un vivaglio, mi pare che lo più nuovo che aveva 20 anni, minimo, se no non vedi più. Sì, lì già lo sa Gian Maria, sto preso i cicchi, e vivo Gian Maria. E mai avvanno sempre, va, avvanno sempre, a si fanno sentire, per sastre, fino anche per i purci ce n'è, per cui, vediamo un po' se deve entrare qualcuno, perché ho sentito sul fondo, volevano cambiare canale, avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, ci vede che hanno cambiato canale, fa che... E tutti erano 40, se ne sono andati. Sono i proventi dei segnali, che da pure i segnali ventrano e non ventrano in onda, vedi? Che voce la radio, che mi di voce vai, zero segnale, è la radio che ti fa inviteggia. L'hai preso? Mi sento troppo popolati, qualche con Mario. Mario ti ha sotterrato, ti ha qualche... Ti ha fatto la prova, caspita. Tu sei un po' non tanto alto, ma Mario ti supera di parecchio e anche di spalle ti supera e per quello ti ha coperto. Ha pagata, io ho detto che ho ripreso adesso, non so se poi mi ha coperto Mario. Ti ha tappato, diglielo, io mi ero incazzato e... Oh, vabbè, non c'è problema, no? Io perché mi devo incazzare, ci mancherebbe altro Gian Maria, l'importante è sentirci. E allora non ci capiamo Mario, dillo tu là. Ti ha pagato, sta cercando di mettere fuoco, no? Questo barbiere di Siviglia. È vero, ma io non ti avevo sentito, infatti io stavo parlando con lui e niente. Poi è giusto che io ti compro, Sono, se allungo la mano ci tocchiamo la mano con Gio Maria, così che non è che sia quello lì il problema. Niente. Riprendi, ok, che a me non mi piace anche pensare a nessuno. No, negativo, no, non è quello. Io ho detto, ho ripreso perché mi ha squillato il telefono e tutto qua, non è che ci mancherebbe altro male. E via, facciamo dare tutti gli usciti guardi, riprendi Gian Maria. Eia. Tanto ma di altre cose diverse, grazie, ma... Fai incavolare qualche cosa, capo, non passo, Io sempre, siamo sempre i matessi brauri, ti viene un sonno ed è un morturio, allora bisogna dire qualche cosa. Oh, c'è il micro a Cuffo, speriamo che non si metta al direttore a fatto di mangiareccia, a chi isso, fa di avere l'appetito a tutti quanti. Avanti, grazie a me. Ehi, a proposito di Mangerisco, sei venuto in casa? campagna ha fatto la razza, è fatto là. Ah, ti fatto quattro cascetti che ti ho fatto. Ogni tanto mi coccava la casa, anche da lì a mattina a cala. Invece non per la quantità a partire, si sono comparato sui ponti, si sono comparato. Meno male si sono comparato dritto. Cazzo, dopo, a chi la cala si fa, no? Si dà di borsa, che hanno andato appena a fare in forza la berra. No, non si può entrare, no? E tutti i giorni, ciò, cazzo. Giuseppe, scusate, c'è Giuseppe? È arrivato direttamente sul 40 ancora. Anche si traduce, come si fa? E la barra e ciò ancora, e sotto è tutta ciò. E la una cara, come si fa? Una cara lunga, un bel lunga. Anche tanto come si alza, i primi gradini si farà mezzo metro sotto. Dunque, e ti arriva a rubarmi. Oh, gufo, hai inteso a Gian Maria? Ha detto che ha fatto quattro cascette da lancio, ma non è che si mi ha regato un po' che tassarlo, bro. Non ce l'hai manco, no, Mario? Ma non sai cosa ha fatto? Ha chiesto il burro senza venti, no? Se lo passi tutta a spremute, è l'ompio, però te li razzi. Di la fossi, di la fossi. Cazzo. Ma dati un drink, figliori, ho visto che accettavo, che accettavo l'altro, e non battere nel manco. Cosa fa via? Cazzo, non era di aiuto a essi. La buccia di la zia minore da voi, vero Mario? Con cacchioccio, va? Sta per la reni, cazzo. Insomma, o ti dico bien niente a chi si vuole, chi dà ragione a te, cazzo. No, ma di me che stavamo scherzandomi. E tanto il baracchino serve per ridere e per sparare qualche cazzata. E se l'abbiamo presa, chissù, ma io lo comprendevo. Se l'abbiamo presa, chissù, che buffonenti sempre. Avvio. E fatti bene, fai bene, grazie a Nedo. Attaccate. Buon mandarino l'hai dato. Buonanotte, papà, c'è il mandarino, l'aggio, e lo mandate, non lo caccoreggi, burro. No, però in campagna ancora non sono fatti, sono quelli. Sempre vendicati, sì, da mangiare, da mangiare, qua, sempre vendicati, sì, grazie a... amica, stavolta non so cosa cucinare, consigliami tu qualche cosa. Ma come me sei pisello, cupotri. Ma non mi piace il pisello, no. Ciao, Natali. Ciao, Mario. Non ti immagini, se mi fottia, non ti sappia chi era diretta, no? E mi dicia tutto visto che doveva cucinare, appesa per l'opazia. Allora, ho fatto la pella. Me lo faceva apposta a provocarmi, sento graziano, beh. Ciao, non ti voglio sapere. Mi tre fagioli, patato, calafiori e l'arve l'ho fatto soffriggere bene. Ah, allora, poi ci ho messo tutti i sapori, l'origano, tutte quelle cose lì, anche mezzo soffriggito con la zionza, tutto tagliato a dadine. Allora sono uscito un po' po'. Ciao Marie, vai a pelle la zumia, ti immagini da suo graziano. E dopo semplicemente un testa l'impressione, Emmy. Non hai chiesto la signorina cosa ha detto? Non di bocca va sola più, anche di circuito dalla bacconi. Ah, chi le fai di battare l'anima dell'inferno le fai battare, lette accende troppo, cara. Lette accende troppo, si è aumentato, si 30 kg è aumentato, perché ha dei pensioni e tu. A chi si sta sempre cucinando e secondi e segnete dalla televisione tutti i ricetti, no? E da voi si può niente a farlo e le per rimanere tutte queste cose alla moglie, capito? Là? E la moglie infatti mi ha dato la buona entra, dice che andò in camera, non so, cazzo, dice a voi di questo, a voi di quello, sempre piangendo, e poco non più via. E non sa mai uscire, a poco fui con me. Capita, Ah, te li fai buoni per il zoo, e se ti hanno tocca a tocca, e c'è tre patinetti. Ah, mi pare che ti metto un po' come mi accondurlo. Grazie a lì. Grazie a lì. Avappa a secondo, ma stasera mi posso. Se osa, chiuser e occhi di bue, trapassati con pezzettoni di pancetta. Ma è Anna. Andare a te, almeno dai Tittina, dai, ti ribadiresti che boh boh, vai a te la giusto al volo in dosso, ma di te la di voi e mandati giù tra date di te ciao Natali. Tatari! No, se, dimmi! Mi sono lasciati in burro, devi farmi danni! Sempre tu sei rendi classica! Ehi, aspetta, che ti vuoi! Ciao, Mari! E dimmi, Ro, buonasera! Piatto che si sente, cara! Allora, illuminati, Ro! Di che c'è grazie a vedo! Cazzo, ma ti rimbattirete, cara! Ma c'è anche un ragione che andiamo in pensione di ventesi, boh, per fare un gallo di quelli proprio dritti. Ciao Giomari, ciao Natali, Giomari, non ne posso più uno. Avrai un poltrona così a vedere il televisore, una mantaretta. Allora voi quest'altro, e se la giù mandate a tutti io. A me non mi saluti, no. Quando ti vengo da Santareggio. Ciao, Mario. Aurora, beh, come stai? Tutto bene, sì? Sì, tutto bene. Così è, Giovanni, oia. Non mi posso più, no. Ticina, vedo un galletto ruspante mi barica. Appa, è ingrassente mi è cazzo, è ingrassente che c'ha femmina, boh, fatti sentire bene a quello lì che è troppo furbacchione. Non ti preoccupare Giovanni, già l'ho fatto io bene, è un becco, più becco di un altro burro. aspetta che dopo riprende la tavola un attimino di Corrixi. Ehi, ciao, buonasera. Ai, Tittina, che sgraziamo. Non mi provocheggia la mia voce che mi intendi, mi provocheggia la gatta. Allora, la grande piazione non se ne può più, Natali. Tata, ne manca a Bescurucci. E cosa cuciniamo oggi, bobo? Avanti, Mario. Pagappa, lascialo fare che già fa bene. Davvero. Lascialo fare che già sta andando bene, gufo. Oiuia. Oh, Natali. Guarda che il carnevale si sta avvicinandomi. Ti porto 10 kg di farina e poi li frigiono a tutti i canti di GB. Sì, non saranno. Ma sai che te ne vai, Luizze. E io ti porto la farina. Tu metti il tempo. Qualcuno porterà l'anice e fai le frigioni per tutti i canti di GB. Tanto siamo in pochi. Ah, non ci vengono a fare frigioni. Cazzo, non ne voglio anch'io, fatti un conto. Se mi poteva fare prigioni. Ma tu dai, Natali, cazzo, andrebbe a cucinare prigioni. Sì, sì. Tu hai in capo, Rosy, ti prendi pure a fare prigioni, non mi credi. Allora, Io ho avuto il pensiero, almeno, E tu sei vendicato lo coso, il capo va a fare i prigioni. E cosa mi può? Poi non sa sena. Lo friggi e per i prigioni. Non è che mi voglia un bello a fare i prigioni. E allora vai tu da tui visi. Non mi si pugna a fare prigioni. Chi ha le altre cose da mi sa. Mia padre, si può vedere, i prigioni, e le vostre fratelline per ricotta. Che buon appetito, Sì, e la riprendi Mario, a fare un bel poco di prigioni, no, a Natalino, a farli, dici intanto di zia, siamo pochi. Sì, non recupera Natalino, poi prima di tutto è a dieta Natalino, perché lo fiago di prigione lo fa ingrassare, pure non ne mangia, lo fiago lo fa ingrassare, perché non ne può fare, è diventato astemio per Natalino. Chi è un grillo io? Non ne mangiano, e mi piace di me, ma no, ha detto che pacificano altri vini. Ah beh, chi da maggio dice, mi dice, guarda che ci, il sabato ci faremo in campagna e rifremo, no? Che altro? Poi la cosa ne fa, tanto noi non li vogliamo mangiare, la cosa ne fa, di sacco figliori, e a chi non so male a partire, Infatti, io manco mi dico, voglio, ma tu là, già la giubici basta la vita, allora non le voglio vedere. Allora, caga, no. No, padre, ne manco, capo, se la fa se ci ne mangia, che tanto non ne mangiamo. E fatti niente, vuole aggiunto. Poi pure andare a giudare, ma non farli in campagna, ma chi campacchi, ma in campagna magari ci vuole fa per chi non rompe il cazzo a nessuno ieri, capito? Magari nel suo caso invece è una rottura. In campagna si vuole fa. E io di sesso aiuto a non farlo, la voi, oddio, vedete come si fa. E allora, una barata a forza di frigione all'altro, oia! E ballate i miei arricchi, se lo passo a pigliarli. Oh, ma tu non li puoi mangiare, questa cosa fritta che ti fate male a te. Tu sei delicato, ti fate male, non li mangiate queste cose. Ti vedi cosa vuoi mangiare tu, la Sicilia vuoi mangiare, ma quasi subito. E allora, proprio lì se non li posso mangiare. E allora vedo un po' tu, allora, ma cosa sei, poi non li vuoi mangiare, cosa sei mangiato tante queste cose, non so che io, non mica si rimangia tutto il tuo moglie, questa cosa che così è, te lo credo. Natali, cosa hai detto? Ah, non mi so che io, lo sono in casa sua io, no? E tu se tu sa, a me io mi provocava la mia voce che mi intendia, che tu sapia che la dieta, a me c'è la mia pazzia, e io già ho cucinato picchio, pizzo, pizzacro. Ah, bisogna attentare la poccia per si fino a questa cosa così legge, ma è un desiderio questa cosa, ma è licchito e licchito, ah, si deri conto, non c'è la bella cucina, licchito e licchito. Che ti fiamo una sorpresa, il vostro una sorpresa, vediamo un po', Mario, a te. Capa, io Marie, ma noi abbiamo avuto il pensiero, io gli ho detto che gli portavo 10 kg di farina, poi qualche altro portava i limoni da grattugiare, qualche altro portava l'anice e così via, era giusto per stare insieme, io ho avuto il pensiero, poi cazzo sono tutti quanti bugetti, io... sono fuggiti da chi non li vuole mangiare questa cosa, capito? E lì così ma non ne vuole mangiare, capito? E per cui sono allergici a queste cose, vero Gattianetto? Noi mi ammazzo, ma che cosa già me la mangio? Non è che ne abuso, però già la faccio, non è che mi abbuffo. Ma a me il dottor Pacifico a me mi piace, Mimì. A me lo tuo pacifico mi ha detto niente per stare a dieta, non ingrassi, no? Se no li viene il diabete immediatamente, mi ha detto. Figurati. Vabbè, ma non c'è quando la glicemia, non ne posso mangiare di quella roba. Manca di lì, anche a me mi piace, se no un chilo me lo mangia la giura. grazie a te di non rifarti niente, anzi, lui fa cazzo la pressione, è sempre una pressione, ma i suoi tempi fiaghenti, è sempre fuggenti, capito? E due così, la pressione che ti fa saltare quando mangia questa taglia, e tu, di la verità, il buffetto è ti assolgo io. Allora, Giovanni, cosa fai? Non ti occupato per fare un termometro, ma chi lo c'è di più? Vai da qui lì. Cazzo, non mi dai la parte da cucinarlo, di la verità, ma cucinendi. Ehi, apri parenne, ha detto vai, vai. Ora ha detto io, mi piglio una cassetta lì, mi ha fatto un brisso, Dio Maria, sono buona e canuccia. E da cucinendi, e questi canuccia, invece di copiarsi il muro. Il termometro mi dico che è già un altro. E te, bubu, vedo un po' la ta. Non sono tutti se non vuole ben mettere a mangiare così. E non che no, Giammari, ma tu vuoi mangiare tu, hai tu graziano. Vabbè, fammi fare una volta. Perché hai stata? Vabbè, da servi, che devi ingrassare ancora, non basta che ci vado, che poccia devi ingrassare ancora. Ah, te lo mangia tazia. Marie! Ma da due ore mi canto un pugno! Dai, per il dottorio! A me mi pare che adesso non so! Ah, vedo un po', come farei su allora? E a tutti le mangi di chi si grazia? Tre fatti un regime, oh! Ecco là! Mario! Mario è andato a mangiare che è entrato la piccicola entrando! Guarda, non c'è da me! Ma ha ripigliato lei, davanti, gufo! Ehi, domani a conto, fatta comprare quei cochi vecchi, come sono, mi ha detto. E ne vuoi una succhiare? Vai, complicato, rimai. Sempre, boh, sempre secca, che su Grazianito, sempre secca, bobo. A tali cosa bisogna fare a Graziano? Se ne la riprende, gli dà mezzo, sono di giornata, giusto, boh, vabbè, meridia 12. E te sono belli grossi, sono tutti colorati, come pare che chi sarà una gattina, boh, sono tutti colorati, e allora gattina chissà di che roba grossa allora è, sarà una gattina misciata a cavallo con tutti gli gattini che sono sparfenti burro la cura, lo sai su. Ma forse sono distrutto come tu hai detto, se si maturi sono distrutto allora, Caccia. E allora, Matteo, ti basta di lui, dai. Ehi, già sarà, le volte si sono distrutto, se provi, sono. Un in più, nel manco, sai fare? E allora, ma, subito mi preparo, la sassana è già pronta, l'uso, la giubuscio, la ziota è pronta, a tagliare. Non più buona la bacchetta, buru. Cazzo, la bacchetta mi vuol pure, guarda, pausa affumicata proprio, quella bacchetta affumicata, cioè, quella lì, la taglio, no? La faccia a quadretti. Ma che siano i quadrati veramente, mi? Lascia lì. E un attimo che le cucina bene, non ho ascoltato il discorso. Ma mi distrutto il cucinetto di Graziano. Con le cipolle, la faccetta affumicata, un po' di origano ci ha messo, un po' di basilico in mezzo, e non so cosa si fa poi in mezzo. Un pezzo di bavaroni, puro zaccoleni, Gio Mario, e te ne manca la tira su cubroncami. Ti zacco chi su dubbo, che c'è una cosa voglia, ti lasci di vapore. E infatti se lo fai uscire su dubbo, il dubbo, una bomba a cacca di ru. Ah, va via, già il fiatto è già passi fuori. capita, speriamo che non vi sia freddo, malissimo. Cacca, bobo, grazie a lei. Tedesco che l'assaggio, prima comincia un poco, dopo la trubocca, e poi si lo mangia. No, che ti mangi tu, lo grazie a. Beh, già me lo mangio pure io. E vedo un po' allora, certo, non è che lo mangiai, non mangi tu puro. Ed magari, mangia più poco, ma tu mangi tutto però, e chi ce l'ho fatto? Cosicché, oia, caso se buono la notte. E l'altro giorno mi ho fatto la farina, mi ci davo l'avviso, mi l'ho preparata, la giornata, pazza, come ti vedi la scrittura, e la cattola. Quattro ore già la giornata zincuri, là. A parte sera la giovata in un forno, la giubica a 180 gradi, la giovata del caggi e l'ho messo in quella teglia normale, che c'ho, ma devo comprare quella teglia bassa per la farina. E esci da un buon buono, già. Beh, se vi portate questi ingredienti, ma pure anche il peperone ci metti, no? La farina l'altro giorno ho fatto, no, normale l'ho provata, adesso con l'altro che mi faccio, domani me la preparo, me la faccio con le cipolle e la salsiccia. E te che si abbiccanca da chi sa baromme, capito? Maria, si piace a te? Io la mangio tutto, mi rimane la giù comparata, ma due figli. Sta zitto, era 2-2. Io ho visto che mi ci vuole, no, che me la posso io. Mi piglio solo la farina al supermercato, l'ho curta assai. E me la preparo io, la preparo la romanzano, la cosirina e a parte in sera te la curo 30 euro poco. Bobo, capito, l'atta lì. Tata, hai te, Graziano. Che la gente suia. Vai due, appena dicevo, capo, non dici modo tu questa cosa, capo, un soco. Ma tu ti puoi immaginare, c'è tutta la canta lì, pensandosi, e scrivendosi cosa può fare. E va un libro anno, no, con la benda, e c'è scrivendi, tutta questa cosa che può fare, no? E allora tutti si può fare così, e c'è sempre pensando, ma così là, cosa buona, cosa ricchita. Bravo, bravo, grazie. Vai, vai. E allora, non sei io, lo messo lì, al televisore, date di burro questo programma, per non buttarci niente, cotto e mangiato. E allora, ma fai tu questo programma, pure non si rampuzza, cosa tutto? Bisogna risparmiare, i tempi brutti sono, così che bisogna risparmiare sempre. Bene, fai bene, grazie, fai bene, complimenti. L'isola che poi la abbassi, già passiamo a voi a ritirarlo. E allora, se vedi che hai visto mi sta un palloncino, se proprio a cura che la devo guidare, all'altra cucina, allora mi tocca la zappa, io il bico che ne ho bisogno per un pezzo. Da lì, abbassa per me. Diventa lugano, è diventato così, capo? Dice lugano che è sempre abbagente, che ha due dopo di cose, sempre abbagente, intende a chiedere sempre così vedi, e chi dà abbagente, capito? Allora, no, pensa lugano c'è la cucina a casa, ma l'ha già imparato, è presente a Eduga. Allora la giada, la salsiccia, chi dà piccante, chi dà il peperoncino. Ma ci dai così da diventare correnni. Non male la rende. Mi sono gana, non vado. Boh, altre immaginate, che la piscina. Ah, che non ti ammagli tu. Ma invece da la chissà di mare, che hai fatto vedo, giacca. Sempre mi vengono. Fare un poco di vino, avete sicuro l'incendio. Allora, un poco d'acqua vitrali, e abbiamo silbato il brugione. Lei che si è visto, mi campagna all'andare, a svenire un po' quella data, no? Ma ti fa, se ce l'ha il posto da bruga, ma io ce l'ha dove quella data, ma se ce l'ha visto, funziona così. Senta, è da quella giornata la danza, dove la vuole capire la danza? Mi ripiglia a piatto, dove se ne vuole altro? Che pittina mi sono cane, non è possibile, no, troviaia. Va bene che lui mi si mangiava i mentini, ma andare la qua a vista che non mi piace mai l'altra. Ma poi si chiamava corrotto i soldi piccicosi di mangiare, come se fosse un padrone, no? Certo, allora che ducale buono che sta roba bagnata, roba piccante, si dirà che cosa va a sudarlo, a smaltire le altre cose, il vino, l'acqua fitte, meno male la si buona la grappa. Allora, interrogiamo la diventa embriagone che allora potete me si mangia tutto, questo gare io non ho mai visto, so che le gare mangiano, io non mangiano di tutto, ma chi si mangia tutto, chi si le dai si mangia, scampo di più che caramella, la presa la vetrinetta, lui vai da fianco a me succhendimi, a chi vuole la caramella, ma non gli do più caramelle, a chi l'ha rurato tutte le reti, mi è costato 150 euro a regalo dal veterinario a bucarne i denti. Ah, le lasci troppo, basta la prossima borsa, visti la succia e fate il barruzzino. Mi piace i rimentini, certo. E come ti mi vedi, a vedere lasci finire pulia. Si cavò tutto, si mangia tutto, si vede un pezzo di cioccolato, rubo, cazzo di chi mi vuole, pensamente che non ve lo dai, ve lo devi dare, se no ti piazza il casino, se fai gnu gnu gnu, se non ti riesci a passare bene, gli assi una palata, e poi ci torna il cazzo di chi. Anche là, dici, se non mangia il padrone vuol dire che è buono, e ci mi ne posso un pezzo pure io, mi sarà. Allora, devi vedere, mi ha già i libri puntati a settembre, ma... Boh... Mario! La sedia va a casa, la sedia va in pensione per un bel tempo, e se vuoi a preparare tante cose buone, sia parendo che per la moglie, è una base in buono per un cucciuccetto. Ma è uno di famiglia Lugani, no? Che ormai l'abito a Duendo, quando Duendo c'ha sempre tanto a cucina, cucinenti, Lugani c'è più ma facendo che ogni tanto può un mosserio di qualche cosa, capito? E tu hai coci, veramente a Duendo e cucinenti, Lugani c'è boh, boh, e c'è papà gente a chi può mangiare, e per forza mi devi dare l'abito a Duendo. Un posso, se no quando mi vedi un buccello di battato, come se me lo fate in mano e già puntate i chivi. Sì, lo provate quasi un casino qua. A volte ne ribucci un minore, no? Se sei bucciato, mangiate si là. Beh, cazzo, una buccia la più buona, la proteina chi c'è? Ma deve essere quella che me l'aveva dato. Ma l'aliva da fatta a tu crudo, che era di buona dalla isola di campagna, cazzo non mi nato mi musicheggia. Ah, se è battagliato il battaggio crudo. Ehi, non lo vado, anche ci sono mangiati che se la farà mangiare pure, che c'è che pure? Oh, ma fai tanto male, ma pure abbaggiato. Se non vai a chissà che cazzo lo sbrana, e di bianco un bel, non si beccia. E tu la di no, ha detto, ah, va la grippo. Ma che cazzo mi ha giocato? Lui rimbuccendo la venne e tagliente, no? E ti si fa arrucio e pure patato così in poro, condito, capito? E che l'ha già detto me, non si sentava più, allora non ne ha già detto più, ma non l'ha fatto parecchio, ma si l'ha mangiato. Tranquilla, vabbè, vediamo un po' se c'è qualcuno vuole entrare, dai. Tutti fuggiti so, abbiamo occupato il canale noi, grazie a, tutti fuggiti so. Ah, vammene giù, sarà tali così rendersi. No, ancora no. Se non prendi le giuste la fame, se prendi la te, c'è pittina. Anche voi c'è che regalare. telefono, se no le scarico. Avete fatto bella. Oh, signori, io rilascio perché anche io sono come Natalino. Se non me ne preparano ne mangio, così che adesso entro in cucina e vedo cosa mi posso fare, là. Non gli so fra modulazioni, oia! Sì, hanno parlato in due. Vabbè Mario, dai, se stai andando via, le prossime, dai, con tutto. Ci sentiamo, dai. Papà, ciao a tutti, ciao Gianmarì, ciao Rosy, ciao Buffo Triste, ciao Natalino. Là se si sono andati al 40 per sbagliati. Alle prossime, ciao ciao. Ciao Mario, ben sentito, buona cena, buona carica a te al QRA, alle prossime, ciao, riprendi Gianmarì. Ciao Mario, buon appetito allora se si ha del di... ma quelli chi? Ehi, sette sono, che adesso comincia lo stomaco, gira gira, comincia a brontolare, ma quale chi se io mangio all'otto, così che l'otto è un quarto, ha giovinito, per cui a voi, poi si porta a vedere la televisione, prima metto a Bezzaluzzi. Ehi ciao, ti ridimo, Michi, ciao, ti ridimo, chi si canzone. Ah, ma stasera c'è Maria De Filippi, c'è Lucia Amici. Fighissimo, come si chiama, quei ragazzi, canto io, e da voi sapete, è un bel ricordo, saluti, non sa mai che cosa mai già. Anche ieri notte mi ho guardato quel film in Leggenda, l'avevo già visto da un bel, però... me l'ho riguardato, te l'ha detto, però te non lo so cosa c'è, l'ho già guardato. Ti so che sei, pure Maria De Filippi in vari saluti, boh, anzi non lo so, lo so, Natalia, aspetta Maria De Filippi. Sì, a me lo dì, non lo so. Sì, mi sembra che stasera scelgono il vincitore tra cantante, ballerino, mi pare di aver visto stasera, questa notte alle 21, che ci buttini gli amici, quest'anno già non me ne ho guardato niente, lui mi ha maleciuffato, sembrava tessigosa e l'ho visto di sfuggita oggi pomeriggio. No, ormai io non me la bai giù, mi guarda, se c'è qualche film, io non mi metto una cassetta, non me la finta. C'è cosa, ho canto io, dai, sono quei ragazzi che è un bello spettacolo quello lì, Così che quella è una cosa bella veramente, io l'ho vista sabato scorso e era bellissimo e fa piacere vedere uno spettacolo del genere. E stanotte sarà bello ugualmente, dai. Ma bello visto, ma è Filippi, nonno. Oh. L'ho visto un pezzo quando era finito il film, quello lì che c'è Gerry Scotti, mi sembra. Infatti. Già è bello, già l'ho visto, l'ultimo pezzo me l'ho visto io, la settimana scorsa, già è bello come programma, ma lui a me mi annoia, già è bello che arrivo, e mi sono piccini burocrati, cantenti, l'ho visto quel ragazzo con gli occhiali, due mia voce, faria un cantante manno. E poi ti ha portato il primo premio, va finimo, chi c'ha chieda, se vincete o si finiscono altri. E anche quella ragazza che ha cantato quella canzone di quel film del Titanic, era brava lo stesso, quella lì pure avevano premiato mi sembra. E anche quello è brava, anche quello è molto bravo. Quella mi sembra che sia un non vedente però mica sia. Ah? Ce n'è una che non vede. Allora mi sa che è proprio Sabrina, però è brava cantando, caspita, ho visto quella, quel ragazzo, e altri due li ho visto sabato scorso, è un bel brava, ma anche da amici avevo visto un ragazzo, un cantante, brava vero, che ha cantato questa canzone di Gesù Gecco, di Gesù Lirico Gecco. Una volta la stessa bruci, sparia proprio il cantante originale. Sì, la canzone di Boccelli ha cantato, infatti. Anche quello è bravo. E ce ne sono, non sono messi in chiaro, se no ce ne sono voci belle in Italia, che purtroppo non sono tutti che riescono a entrare lì, capito? Tipo quella signora che adesso c'ha la certa età, che arriva a creare il televisore, che quando è andata a fare i bruvi, non so, curì, l'hanno detto che non andate a avere, come fisico, no, insomma, no, era brea, un po' che parlava, e non l'hanno mai pigliata, la pari l'hanno provata, mi sembra che era un programma di Papio di Gerri Scutti, non me l'ammetto, che è anziana adesso la signora, capita, va una voce da spettacolare, italiana, e non so che quanti gigli ha fatto e l'ha venduto. Ed ha raccontato la storia sua che non l'aveva accettata perché fisicamente era polpo. E adesso va una voce qua, spettacolare. E anche quella ho visto, sì, infatti. Ho fatto cantare, infatti ero rimasti meravigliati tutti i campi, era un grigia. Tu cosa fai di Natalia? Tu gli ricavari, e noi vengo di beh, che cosa di interessante, se no piglia e chiudo. E pure ciò che si tira e tira, e gli davvero, basta tutto il comando in mano, sai, data un canale, fermo e basta, e avessi di venire a strumento, allora comincia a rompere i cattoli, e tu pensi a fare il punto ai chipi, che fa un dammino alla nostra camera, a fare un dammino al conto mio. Ma invece poi ieri notte, dopo il film, ero Irene, ho visto un documentario, stava finendo, però mezz'oretta durata ancora. A me mi piacciono i documentari sugli animali, sui leoni era questo documentario, leoni maci e leoni femmine. E c'era la storia di questa leonessa femmina, che era la azzurra da avviare i guccioli, nessuno la voleva. Ma era bello, proprio la savana, bellissima, a me piacciono un sacco i documentari. Ma infatti, ma dai, bisogna sera ici, a Canale 3, che è Geo e Gea, e mi danno dei bei film bellissimi, tutta una roba dalle mani, è bellissimo, e poi ve ne sono un bel pure a se canale, basta girare sopra. Quindi so, per i zombie, è tutto roba illusimi di animali, eccetera. Anche quelli sono belli, è tutto da vedere, dai. Così nuovo e per cui fa piacere ogni tanto. Io sapevo cosa baitava. Ora non per niente, ragazzi, in televisione, per tante di queste cose, viene, cazzo. Allora, questi notti sono tutti proprio fatti di schifo. E se ciò che sono magari ticchetti e sono uno più bello dell'altro. Ecco, ma questa settimana, insomma, mi ricordo, c'era mercoledì, una canale aveva un film, non più bello dell'altro, non sapeva filmare paesaggi. No, ma anche di notte, verso mezzanotte, ne ho visto un altro programma io sulla sopravvivenza, e ha fatto vedere questo tipo, la sopravvivenza nell'Antartide, nei ghiacci, dopo la nuda mi ha mangiato, nuda in nuda, la sopravvivenza. Beh, allora dico, e l'ho venuta Ivi, ha pescato, ha mangiato, ha fatto fa passare la notte a chi si raccende là. Una tempesta, no, di neve, a cavallo ha fatto un brodo tipo questi casetti di eschimisi, tutti di ghiaccio, si è entrato dentro, si è appunto una manta di chili, sopra si è appunto lo saccappello e si è cuccato di chili dentro. Solo come i cani nell'Antartide, nei ghiacciai. Non vedo nulla di nulla a mangiare, se ce l'ha bucato lo mangia, però uno se non lo sa, muore subito, ma Massimo ha detto, tempo di 2 ore uno muore, lui lui sapeva come muoversi, come riscaldarsi e tutto quanto. Comprendi? Ehi, senz'altro aveva fatto delle esperienze, dice, e sa già, sopra di tutto fa un motivo, no? Magari siamo andati noi, però a lì noi già non morivo, già sappiamo come si fa, di più. Io lo credo, via. Da dove sono, no, che cazzo, è poco per caso, me. Insomma, tu devi vedere questo, dai ghiacciai, dall'altarsi, tutto a piedi, mi sembra a piedi. Poi è sceso la vallata, no, c'era il fiume e questo bosco enorme, solo pieno di lupi, cervi. E la via lunga mi va via un cucchetto giù, una scatola di lumini. E mangiano la via lunga, lunga. E lo sa cappello va via, e una borraccia balleva. E poi ha fatto vedere la sopravvivenza per poter vivere in questo bosco enorme, che non finiva più, proprio enorme, che secondo Uganda ti perdi pure. E questo ha fatto vedere, si è acceso il buco, si è fatto la capanna con il rame della legna, con la legna, e via la neve in questo bosco. Adesso si è smagnato, mi ha tirato le corsicce dall'albero, si è mangiato le tarme, le uova di gattarane sotto le corsicce c'erano. Tutti che cosi scherzi, ma tutti erba che c'era vicino al ruscello lì, non so cura il mais. Ma penso, zia, quante calorie c'aveva quell'uovo lì, quante calorie baviano in quelle tarme. E ha un verme, si è mangiato, ne ha bucato dalla terra, no, si è mangiato, dice un po' gommoso rimane, certo che schifo. Ha fatto bene la sopravvivenza. E sempre venne strada di lì, no? Però a mangià e a cucare, si arrangiava di tutti. E caro bene, che sei caduto si è mangiato i giorni, non hai visto? Mi sembra ci visto, che ce l'ha arrucchito. Ehi, ha mangiato i giorni, che burro. Ehi, ma fammi, l'ha visto chi ci ha ustronati, non fa nieva. E si visti i gatti rubisci redi, ma stessi, va, piscia e dopo si rubisvini. E guarda qua, tu burugisci che andiva sopra nell'Artarti, 30 questa specie di ugurugi sciappato in mezzo alla neve, sotto nel ghiaccio. Dici, una cosa più importante, l'ha fatto lì, ha pigliato la borraccia, si è entrato la borraccia sotto la manta e ha pisciato lì. E la becina ha un cucciaggio, 30 anni a cappello. Ce l'ho visto già. Vedi un po'. La fame la sente, non è tanto cosa buona, no? Beh, va. Ne approfitto e vi saluto da domani, se Dio vuole che coincide. Per cui, grazie alla chiacchieratina, vi siamo messi il gruppo, Abbiamo occupato l'U21 oggi, grazie, sta. Avrai detto che i capelli se ne sono prattiati l'U21 e sono fuggiti subito. Poi fammi dare pure l'acce di luce, dai. Cui, grazie, bezzona, non siamo tornati. Cui, ne approfitto, ciao, grazie allora. Buonasera, mi raccomando, stammela bene con la signorina e fate mangiare roba leggera, almeno dimagrisce un pochettino. E tu lo battessi. Ciao e a domani se coincido, dai. Ciao Mattarì, buon proseguimento di serata, ci sentiamo, alle prossime, ciao, chiudo. Ciao Gian Maria, sentanto, alle prossime, buona cena, buon tutto. E saluti il QRA, alle prossime. Avanti, grazie. Ciao Giovanni, buona carica a te, alla tua 50, Pappa del Roggero, e ci sentiamo alle prossime, al limite domani mattina, se non sono impegnato già accendo, Pappa del Roggero. Vabbè, io la taina approfitto a Sarra, che io che devo continuare. Ci sentiamo alle prossime, buona carica anche a te quando la fai, ciao. Allora, ciao, alle prossime. Ok, ciao a tutti. Ciao. Ciao Graziano e ciao Gian Maria, ho ripreso adesso, ho sentito un saluto. Saluto a tutti e due, dai, alle possibili. Perché? Ma non c'eri però, ti abbiamo chiamato. No, non c'ero, no, Gian Maria. Sono uscito veloce per la commissione. Vabbè, ciao, chiudendo sto, ciao. Ok, Gian Maria, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo le prossime. A parte, ciao. Ciao, grazie, anche a te, alle prossime, dai, tutte le prossime. Se non sbaglio c'era anche Natalino. Ciao, avrà già chiuso, ciao. Ok, ciao, grazie, ciao, alle prossime. Natalino.